Dimmi Mario, dimmi. Allora ce l'ho con te, Crociani. Sì, parla bene, togli viva voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, quello che ha. Non posso farlo, non posso. Ma se non puoi fare, allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa. Ma vai a fare in culo tu, ma non chiamare, imbecille! Se hai il telefono così, non chiamare! Non chiamare! Non chiamare! Se hai il telefono così, non chiamare, imbecille! Ma perché si litiga sempre sta trasmissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché? Ma scusa, ma chiama col telefono così, bisogna, sta testa di cazzo. È una trasmissione incredibile, tutti che urlano. Ma perché? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora, senti, scusa, io non voglio contestare quello che fate in questa trasmissione, io manco la conoscevo in realtà. Io ti ho chiamato perché la tua trasmissione, io ieri l'ho sentita per 2 ore, mi avete fatto letteralmente cagare. Eh no, mi fai girare i coglioni, scusa, ma come cazzo ti permetti? Ma io devo lavorare 30 anni per guadagnare quello che guadagni te in un anno di stronzate. È un assessore di Brescia leghista, un pezzo di merda, Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno, non ho capito chi era che sparava cazzate a manetta. Minchia, l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione! Siete quattro froci! Parenzo dice sempre cose intelligenti, lo attaccano sempre, ma dice sempre cose molto intelligenti, è vero? Tu sei, Gottardo, tu sei una palla di grasso, informe e maleodorante, un inutile cazzo messo al mondo! David, quanto mi ami? Dillo a tutto il mondo, tutta la vita. La qualità dell'audio è pessima. Dal bunker di via Monterosa, il sottoscritto vivo e vegeto. Eccoci qua. Applausi, grazie. Sempre dal bunker, in via, non lo possiamo dire, quartiere Prati a Roma comunque, quartiere Prati non lontano da, no vabbè, meglio non dirlo, non lontano da, non diamo troppe indicazioni. Tanto ragazzi, se qualcuno di voi ha intenzione di arrivare a 1 metro da casa Parenzo, beh, ci sono i paracadutisti, ci sono le forze d'élite, dello Shin Bet. Sto vedendo una serie dove è protagonista lo Shin Bet. Non può essere, chiedo scusa se correggo immediatamente la stupidaggine che hai detto, perché lo Shin Bet è il servizio segreto interno dello Stato di Israele. La gente non lo sa. Lo Shin Bet è il servizio interno. Quello esterno si chiama Mossad, quello che si occupa delle grandi operazioni esterne allo Stato. Lo Shin Bet si occupa delle operazioni interne. Questo solo comunque, per ragazzi, se vi avvicinate in via, che non vi posso dire eccetera, oltre ad un bunker super protetto, c'è anche una protezione speciale degli amici di Israele, diciamo così, no? Ma non degli è così, ma non importa, no? Sì, no, perché poi mi chiama l'ambasciata israeliana e mi dice scusa, ma cosa dicono? Una volta me l'hai raccontato. No, ma poi mi chiama e dicono, ma scusa, ma cosa dicono? Possiamo dire che c'è uno Stato estero, scusami, che lo protegge? No, non è così. Possiamo dire che è si mette in moto però una protezione come dei fratelli israeliani, possiamo dirlo, no? Ma non è così, purtroppo non è così, mi piacerebbe fosse, purtroppo non è così. Io voglio comunque, intanto abbiamo detto una castronata come al solito, io voglio dare un saluto a 1.200.000 persone. Tu direi chi sono? Chi sono? 1.200.000 lavoratori dei 320.000 bar, ristoranti d'Italia, della filiera italiana, che sono in attesa di riaprire, ma devono riaprire in sicurezza. Allora, sei ci sono 1.200.000 dipendenti che tu hai trascurato. Io no, tutt'altro. Io, anzi, io quando posso mi faccio portare anche il cibo a casa da quelli che fanno il delivery, sei come tu mi hai spesso mi hai preso in giro per questo. Io invece, per aiutare queste imprese, allora io dico, sono 1.200.000 persone del settore della ristorazione che devono riaprire, ma devono riaprire in sicurezza. No, e io a tutti loro mando un grande abbraccio, perché se riaprono per 10 persone è come se fallissero, non hai capito un cazzo. Infatti, no, tu non hai capito. Vabbè. Io dico, devono riaprire ma in sicurezza. Per riaprire, intanto dategli la possibilità di servire i cappuccini a casa, dategli la possibilità di servirli, ma non al banco, ma subito fuori. No, comunque, ragazzi, i bar sono chiusi. Cosa dici? Tu non vivi il quartiere nel quale stai. Perché tu vai a bordo di una Land Rover, di una Jeep corazzata, che dal tuo box di casa, come quello di Batman, ti porta nel box di Radio 24. Perché tu sei tra quelli, peraltro, che ha il parcheggio aziendale interno, e quindi non paghi neanche il parcheggio. Quindi tu entri in quella macchina blindata, percorri 300 metri, arrivi a Radio 24, la parcheggi dentro, prendi l'ascensore interno, quindi del mondo tu non vedi niente. Tu i poveri non li vedi neanche dal finestrino, perché sono pure oscurati. Ma fai il populista oscurati. Con me non sei sono... una cosa schifosa, perché tu neanche i poveri vedi per strada, ragazzi, ti puliscono neanche il vetro, posso... perché è troppo alta la Jeep. Non me ne frega un cazzo, posso riferirmi che una ti cosa? È stata peraltro anche regalata, no, facendo una marchetta per giunta. Ma sei per giunta. Oggi se sei, vogliamo, sei passato se al contrattacco, se vogliamo dirla tutta, andiamo a verificare chi regala le macchine. Ma a me non me l'ha mai regalata nessuno, e io ho il mutuo sulla mia Jeep, che pago ogni mese il mutuo sei sulla mia Jeep, lo sto pagando ancora. Sei andiamo a vedere, tu lo paghi il mutuo sulla macchina? Sei passato all'assalto? No, lo paghi in contanti, il mutuo? L'ho pagato in contanti. No, in contanti l'ha pagata. Ma qual è l'italiano che può permettersi di pagarla in contanti la macchina? Oggi chiediamocelo. Sei chi è? Chi è l'italiano? Chiediamolo a questi ascoltatori che vellichi. E da chi era usata prima? Da è chi? Usata. Da Pupo, dal cantante Pupo. È tutto collegato. Che c'hai oggi? È tutto collegato. Impazzito. Incredibile. Comunque, ragazzi, c'è da dire una cosa, che è davvero privilegiato. Oggi ho fatto il test sierologico. Ti posso dire una cosa? Te lo posso vedi che sei un marchetta. No, ma no, come hai fatto? Questo è proprio ho fatto schifoso. Un test sierologico. Ho fatto un test sierologico. E chi hai chiamato? Qualche tuo amico da qualche parte? Avete capito, cari ascoltatori? Avete capito, cari ascoltatori? Noi siamo qui. Io non ho fatto il test, ad esempio, perché non ho amici importanti. Sei a Roma, dove non c'è una stramazza di nulla. Che c'è? Ah, tu hai fatto il test. Ho fatto il test sierologico. E come mai ci sono tante persone che attendono di farlo e che ne hanno più bisogno di te? E l'hai pagato almeno quel test? Si è mossa un'azienda privata? No, si è mossa un'azienda privata. Io non ho null'altro da aggiungere. Ascoltatori, per cortesia, telefonate, fate sentire il vostro sconcerto. Questi sono i sovranisti italiani, peraltro. Ma questi sono i sovranisti. Si fanno fare il test in privato. Certo. Vergogna. Non ma so, io sono incazzato nero, 35, guarda, perché ci sono e potevi pagarlo con tutti i soldi pagato, che guadagni. Certo, ho pagato. Hai detto che non hai pagato perché no, l'azienda pagato privata perché si è mossa. Offerto, sei peggio. Allora non hai pagato, sei caduto in contraddizione. Vergogna, pagato. Hai pagato o non hai pagato? Pagato. Hai pagato o non hai pagato? Hai pagato o non hai pagato? Vergognati allora. A fare la morale. A fare la morale agli altri poi. Vergognati. Questa è l'unica trasmissione che inizia in 5 minuti i conduttori se ne sono detti in tutti i colori. Sei un privilegiato, sovranista, un pezzo di merda, un infame contro il popolo. Guadagni non i soldi, esiste la al macchina mondo, non esiste al mondo. Comunque, ragazzi, l'altro che dice la via di dove abita quell'altro per scatenargli il popolo contro. Purtroppo, posso dirvi una cosa, pazzesco. Purtroppo sei purtroppo positivo. Controllo rilievo IGC, rilievo IGG, anzi, ma qual è l'azienda IGC che si è mossa? E perché sono, si è mossa un'azienda? Sono cazzi miei, adesso dopo te lo spiegherò. Allora, rilievo IGC. rilievo, sono tutti uguali. Rilievo IgC assente, rilievo IGM, cioè gli anticorpi assente. Purtroppo non manco mi ha sfiorato sto cazzo di Covid. Io pensavo di essere bene però. Ma ah, no, tu volevi essere immune invece. Immune, poi non si sa bene cosa significa, naturalmente. Alcuni dicono che non conta un cazzo. Invece tutto invece non negativo. Sei immune, sei semplicemente uno stronzo raccomandato. Pensa a te, con la gente che come i calciatori, con la gente che aspetta di fare quello straordinario siero, no? Questa chimera di inseguire il siero, e lui se l'è fatto fare a casa. È venuta a casa, la trentenne a casa, la trentenne bionda a casa, alla quale magari poi chissà che cosa hai fatto pure a casa, oltre a Sgarbi, farti fare il prelievino. Comunque, ragazzi, di sangue. Sono negativo al test sierologico, non voglio dire tutto negativo, purtroppo tutto negativo. Mi avesse attraversato e non l'hai pagato. E non ma hai sì, pagato. Sì, ho pagato 35 ma euro. Ma dai, come? Hai su. Detto prima che non hai pagato. Ma sì, detto. Non ho pagato perché hai non ho pagato sul momento. Non ho pagato sul momento. E quando si paga dopo? Perché la gente normale, secondo te, dice pagherò dopo? La gente normale, secondo te. Allora io domani vado al supermercato e dico: ho queste. Mi chiamo Parenzo, datemi queste cose. Scusi, quando paga? No, sì, ma pagherò veramente. Dopo. Così fa Cruciani. Come pagherò dopo? La gente normale dice pagherò dopo quando va a farsi il siero, secondo Sgarbi, te, quando va a farsi il test. Sui funerali. Che vergogna. Ragazzi, che vergogna. Ho fatto il test sierologico, saranno cazzi miei, l'ho e fatto anche pagato. Per sicurezza, così almeno. E non hai. Ma quale sicurezza? E non hai neanche pagato. Hai detto pagherò dopo. Dopo quando? Sì, pagherò sempre dopo, darò dopo, i soldi dopo alla dopo? Persona che me l'ha fatto ma fare. Ma chi? E perché non gliel'hai dati subito, scusa? Ma perché non ce li avevo dietro gli spigli? Ah, eri a casa e non avevi i soldi non a casa. Casa qui non torna. Qui non c'è nulla, non torna nulla in questa versione. La misura è talmente inaudita che siamo davanti alla diciamo profanazione del culto dei morti. Se io vado al di là dei 15 da solo su una tomba, perché il cimitero deve essere chiuso? Il culto dei morti è la vita delle civiltà. Trasmetto il contagio al morto? Io da solo sulla tomba del mio morto? Mia sorella che non può andare dai suoi genitori come ha sempre fatto ogni domenica? Puoi far entrare 15 persone per volta, ma non puoi mai chiudere i cimiteri. È un atto criminale contro la civiltà, contro il fondamento della civiltà. Sul teatro la stessa cosa, il teatro è una chiesa laica, che io non possa parlare in un teatro, magari collegato con dei video, è un crimine contro quei tempi della civiltà, della ragione, è una follia, cioè ogni cosa è stata profanata, sono dei criminali, sono dei fascisti, sono dei bullisti, il bullismo di quei carabinieri è inconcepibile. No, calma coi carabinieri, calma coi carabinieri. C'è stato sicuramente qualche caso, eccetera. Però non è che la roba è così. Cioè, non è che ci sono i carabinieri che improvvisamente sono diventati fascisti e cominciano a picchiare la gente, eccetera, eccetera. Dai, non diciamo cazzate. C'è stato qualche caso di persone che di arroganza, sicuramente. Ma non è che i carabinieri sono in giro a picchiare le persone. Non diciamo cazzate, Sgarbone. Dai, ci mancherà. Dai. Non è tollerabile multare qualcuno perché porta giù la spazzatura e magari picchiarlo. Questo è accaduto. Quindi gli ha preso la mano. Ti sono riscoperti tutti in queste ore, in questi giorni, si sono tutti riscoperti amanti delle messe. Tutti fissati con le messe, non sì, fregava un cazzo a nessuno sì. delle messe. Beh, c'è gente che no, si è messa. No, ma non frega un cazzo a nessuno delle messe, diciamo la verità. Nessuno si è mai interessato all'importanza di una messa, al fatto che la gente deve andare a messa, oddio, oddio. Chiese sempre vuote, di solito, tranne in alcune occasioni, beh, eccetera, eccetera. No, adesso tutti, addirittura c'è un deputato, l'amico Giachetti, che si è messo a leggere non so che cosa, una preghiera davanti alla portone di una chiesa. Ma va benissimo, per carità, io sono d'accordo sul fatto che si poteva sicuramente fare diversamente. Adesso stanno trattando i vescovi con Conte, ragazzi, ma sarà il problema di andare a messa? Ma che cazzo ce ne frega? Non è quello il problema, dai. Beh, no, anche dai. Quello è un aspetto che per molti è importante. La zanzara. Io potevo essere stipendiata. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Fratelli d'Italia. Ma chi è questo? D'Italia. Oh mamma mia. Fitosi politici liberi di aprire. Oh mamma. Conte, il 4 maggio io apro. Questa attività 5 anni rischia la chiusura. Due mesi chiusa. Senza nessun aiuto economico dello Stato. Comunque ragazzi, come al solito i virologi, uno poi dice se la prende con i virologi, no? Che ormai sono entrati nelle case di tutti noi da 2 mesi, li consideriamo, siamo lì appesi con la lingua di fuori, no? Appena vediamo un virologo, no? Con la lingua e con la speranza di fuori, chissà cosa ci dirà. Sono persone che hanno studiato il problema, ci auguriamo, no? E quindi avendolo studiato, essendosi contraddetti 40 volte, sicuramente hanno studiato il problema, questo non c'è dubbio. Allora, siamo lì che vediamo un virologo e dice fammi sentire, siamo lì con la faccia, no? In attesa di una novità, in attesa di una notizia positiva, in attesa di qualcosa. Oggi leggiamo, ti giuro, Crisanti, che è quello che è in Veneto, è un professore di Padova, sì, che è praticamente quello che ha risolto, tra virgolette, super consulente di Zaia, che io vorrei sposarlo. Anche bravo, mi pare, fosse no? possibile, vorrei, bravissimo, fosse possibile, io lo vorrei sposare in unione civile, ti giuro, io adesso mi sposerei lo rovini, lo in unione civile con Crisanti. E tu stai fosse rovinando possibile, la facoltà fosse di possibile signore, no di perché professore. Io dico fosse lo hai possibile in 2 minuti, mi sposerei in unione civile con Crisanti, ecco, ti giuro, distruggi la sua reputazione che era ottima, lo abbraccerei fortissimo, è una sorta di mia guida spirituale. Ma perché quando una cosa funziona la distruggi? Ma se funziona non dirlo, perché lo danneggi. Sei il remida al contrario, quello che tocchi diventa merda. Sei il remida al contrario, danneggi la reputazione di un grande medico. Non sto dire dicendo così, che lo metti in cattiva luce. Se piace a te lo metti in cattiva luce, fidati. Andrebbe fatto ministro della sanità. Ma non dirlo, non fanno Crisanti ministro della sanità invece di Speranza? Cioè sarebbe ottimo Crisanti ministro. Comunque, la al di là di questo, Speranza, mi pare che stia gestendo. Ma posso avere l'ambizione di sposare con l'Unione Civile Crisanti in comune ma a Padova? Voglio sposare Crisanti in Unione Civile a Padova. Ma ti è il mio guru spirituale. Ma che ti dire, devo perché dire? Lo devi rovinare? Mi sono innamorato di Crisanti. Tu sei, c'è una cosa che funziona, la vedi e la distruggi, non si capisce no perché. Però questo perché te lo dico, perché voglio sposare Crisanti, ecco, a Padova, perché, esatto, perché oggi perché. Leggo un'intervista di Crisanti, che anche lui non si risparmia per carità in interviste, il quale dice una cosa che abbatte ogni discussione. Dice, noi stiamo parlando qui fase 2, fase 3, fase 4, fase 1, i permessi, le cose, i congiunti, eccetera, eccetera, ma quando finirà? E alcuni dicono, terrorizzandoci, che ci potrebbe essere una riapertura, il virus che ricomincia in autunno, alcuni addirittura per terrorizzarci. Beh, ancora. Guarda in Germania. Aspetta qualche giorno, aspetta prima di dire guarda in Germania. Guarda la Germania. Guarda, adesso cosa è successo? Aspetta. Sono ripresi i contagi in Germania, aspetta, in Francia hanno bloccato la riapertura delle scuole. Aspetta, allora, quelli che ci dicono, se riaprissimo domani tutto avremmo 70.000, 80.000. 100.000 in terapia intensiva, tutte date, tutte cose messe così per terrorizzarci. Fermi tutti. Sai che dice Crisanti? L'unica speranza è che il caldo uccida il virus. Vabbè, cioè, tu ti rendi conto? Ma dice l'unica, oltre a fare quello che dovremmo fare e che non stiamo facendo, tracciare le persone, i tamponi, ecco, eccetera, questo, eccetera. Bravo, queste non due c'è cose. Lui dice questo. E tamponi. Però poi dice una cosa. Alla fine l'unica speranza è che il caldo uccida il virus. Ragazzi, ma di che parliamo? Negri, l'ingegner Negri, un po' di tempo che non lo sento, fatemelo risentire, mamma ti prego. Mia, ti prego, fammi risentire l'ingegnere. Perché non vuoi mia. Sentire ma l'ingegnere? Ma poi perché parla tutti i giorni? Perché tutti i giorni parla l'ingegnere? Ma adesso vuoi impedire alla gente di parlare? Ecco. Cioè, vuoi impedire alla gente di parlare? Vabbè, voglio, hai deciso no, che la gente non lo può farei parlare. Ascoltare tutti i giorni, ecco, perché non è un'autorità. Ieri, non è un'autorità in alcun modo. Ieri non l'ho fatto ascoltare, infatti. Qualcuno ha sorriso quando io, i giorni scorsi, ho detto questa è la dittatura, la peggiore dittatura che si sia mai verificata nella storia dell'uomo, la peggiore, neanche quella di Pinochet, quella di Ceausescu, quella della Polonia, dei paesi dell'est, di Cuba. Mai dittature peggiori di queste. E dopo quello mi ha detto: ma perché tu non rispetti la libertà? Sì, bene. Volete andare con le maschere, volete andare con le bombole dietro, fate quel cazzo che vi pare. Io sono un cultore della libertà, ma non rompete i coglioni a quelli che non ce l'hanno. È chiaro? Allora, c'è un barista, non so di dov'è, anche là credo toscano, forse del nord, non mi ricordo, che si chiama Franzoni, che sta circolando molto sull'internet, il quale è avvelenato col governo e dice veramente di tutti quello. Si chiama Franzoni, senti quanto è avvelenato, senti, i baristi sono molto avvelenati. Voi ci fate fallire, ma noi facciamo andare a casa questo governo del cazzo. Allora, se io dico: non date i soldi ai dipendenti, ci date 600 euro una tanto, mettiteli nel culo 600 euro. Tu ora che hai distrutto i rapporti, sei intervenuto nei rapporti tra me e il mio proprietario del fondo, e quindi sei intervenuto nei rapporti tra i privati, ora tu paghi l'affitto, mi paghi l'affitto fino a che non si norma. Come fanno gli stati seri, Germania, siete dei cazzari al governo. Allora andiamo a Brescia da Paolo, iniziamo la sarabanda, dai David, forza, iniziamo la sarabanda. Tra l'altro anche Ricciardi, che è il capoccia, diciamo, dei virologi, immunologi, non so cosa sia, che è il consulente principale del governo, che è una roba che, se lo dice Ricciardi, bisogna toccarsi le parti basse, perché dopo quello che ha detto in precedenza, il virus al sole a 24 gradi e con alta umidità scompare in 2 minuti, ha detto oggi. Bah, vai Paolo, dimmi. Ciao, sono Paolo Papillo. Dimmi Paolo, buonasera, all'attacco, vai, dimmi Paolo, dimmi. Allora, guarda, tutti parlano di fase 2 per i problemi per il lavoro, per uscire a lavorare. Praticamente ci vogliono ridurre a bestie da soma, perché cosa fai? Lavora, produci, consuma, crepa. No, io voglio anche avere relazioni affettive, sessuali, sentimentali. Sì. Quindi il sottoscritto, allora lockdown chiuso, lockdown aperto, da domani, dopodomani massimo, me ne frega un cazzo e vado in giro a farmi i cazzi miei. Mi fanno la multa, non la pago. Perché io non sono una bestia. Beh, che è responsabile, bravo, con tutti i problemi che ci sono, i commercianti che non hanno soldi, che non possono riaprire, lui pensa ad utilizzare il suo augello reale a farsi i fatti suoi. Bravo, bella responsabilità. Bravo. Uscirò con la mascherina, con i guanti. Bravo, irresponsabile. No, però lui dice una cosa, Paolo, non so se sia single, se abbia una donna, se non ha una donna, perché il problema è serio. No, ma il problema è serio. Guarda il populista che si è fatto il test sierologico privato che lo difende. Guardate chi sono i nuovi Boris Johnson italiani. Se io prendo e parto e faccio 10 chilometri, vado dalla mia amica o fidanzata che sia, non incontro nessuno. Questo lo può fare. Dal 4 maggio lo può fare. Dal 4 maggio lo può fare questo. Dal 4 maggio lo può fare. No, non lo può fare. Lo può fare nella stessa regione. Nella stessa regione, certo. Dal 4 maggio. Cosa vuol dire affetti stabili? Ma scusa, io posso averla conosciuta anche un giorno prima, la persona in chat, e due mesi l'abbiamo detto, ci può andare, può andarci, no, non andranno a verificare se è stabile così, o no. Metti che uno abbia conosciuto una persona da 20 giorni, si è innamorato di questa persona da 20 giorni, che cazzo gli dici? Vabbè, ma è chiaro che magari, sto frequento una, nessuno ti chiederà mai sul modulo, da quanto. Non me la sono ancora trombata, me la voglio andare a trombare, sarebbe bellissimo. Diciamo stupidaggi, scriverai vado a trovare una persona. Allora, non ci scandalizziamo quando fanno la multa al babbo perché porta la bambina a fare la visita oncologica e c'era anche la mamma, perché ne hanno fatte migliaia di multe a casa. Per fortuna gliel'hanno cancellata. Migliaio. Quella a cui fa riferimento lei gliel'hanno cancellata. Senti, Parenzo, intanto l'avevano fatta. Poi e hanno fatto male a farla, ma l'hanno cancellata. Le sto dicendo, dire, hanno fatto male, ma l'hanno cancellata. Ma ragazzi, è peggio di prima. Posso dirti che questa cosa che hanno deciso dal 4 maggio dal punto di vista della libertà individuale è quasi peggio di prima? È quasi peggio di prima. Per la libertà individuale. peggio di prima, sicuramente per il lavoro no, ma per la libertà individuale di spostarsi, di incontrare persone, quasi peggio di prima. Che cazzo ci faccio con i parenti fino all'ottavo persone. Grado? E, sì, Giuseppe, dai, i fidanzati Giuseppe. Già stavano insieme nella stessa regione. Chi è che non sta insieme, fidanzati nella stessa regione? Chi è che non stava insieme? Non diciamo cazzate. In i fidanzati, diverse. Ma può che succedere. Ma quando una mai? Sta a Viterbo e un altro sta a Latina, può ma succedere. Ma sì, no, e in questo tempo non hanno trovato modo di stare insieme. Ma che cazzo dici, David? Dai, non diciamo stronzate. Può succedere. Ma io ne conosco di casi. Ma che conosci? Dimmi, Paolo, dimmi. Di persone che stanno in città diverse, non si sono visti, certo. Ascolta un attimo, Parenzo, che tu venivi a vedere le manifestazioni antagoniste, quindi lo sai. Hanno messo in piazza, tu a Milano ti incontrato le manifestazioni antagoniste che facevi il tuo lavoro di giornalista. Quindi tu sai benissimo che i controlli li stanno facendo nella grande maggior parte i battaglioni mobili. Ma lo sapete cosa sono i battaglioni mobili? Adesso noi non è che possiamo dipingere la polizia o i carabinieri come dei terroristi che fanno le cose. Ma io voglio sapere. Paolo, ti saluto. Marco dalla provincia di Modena. Marco, provincia di Modena. Marco, dimmi. Ciao, pronto? Dimmi Marco, dimmi. No, allora, ascolta, guarda, la Cartabia oggi ha detto che non esiste un diritto speciale per le emergenze. Sì, vabbè, non la mettiamo sul piano giuridico, non è la trasmissione giusta, bene, che bene, cazzo ce ne frega a noi delle cose allora, in punta di diritto, allora, le cose, le polemiche, non ce ne frega niente, dai. Va bene, allora, liberiamo milioni di persone che lavorano in nero nei mercati rionali, che portano a casa lo stipendio, i 50 euro. Sei in viva voce, sei con l'auricolare, col viva voce, non ti senti. Senza. Allora, dimmi, che cosa c'è? Liberiamo... Ma non lo so, ma lo decideranno quando riaprire i mercati pubblici, i mercati all'aperto, lo decideranno, alcuni lo faranno sicuramente il 4 maggio. Qual è il problema? Che mestiere fai tu, Marco? Io sono un commesso viaggiatore e ho un sacco di rapporti così, occasionali. Con chi? E con le donne? No, con aziende. Ma puoi continuare a lavorare, se la tua azienda opera puoi continuare. Matteo dalla provincia di Varese, non c'è un cazzo da dire questo. Matteo, provincia di Varese, dai, dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi, io dimmi. Niente, ho 19 anni e sono chiuso in casa praticamente 2 mesi, vabbè, come tutti. Allora quanti anni hai? Quanti anni hai? 19. Dunque? Mi ricordo, ha chiamato qualche giorno fa. Ti stai ammazzando di seghe? Ti stai ammazzando di seghe? Adesso che è finito il periodo pre-tornato devo dire che è dura. Cioè in che senso? Ti stai ammazzando di seghe o no? Voglio capire, 19 anni in casa? Sì, sì, però adesso la roba lì di appiattire la curva, eccetera, l'ha finita e quindi... E che fai adesso? Premium, ciao. E niente, mi arrangio con i video amatoriali, che devi fare? Beh, sempre seghe sono però. Lo so, però non sono seghe premium, diciamo. Fermola. La Zanzara. Ho strappato l'Inps oggi! Ho strappato l'Inps! Parenzo, ascolta, tu a volte hai ragione su alcune cose, ma sei proprio una persona di merda, ok? Proprio umanamente sei viscido come pochi, hai capito? Un poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Amico mio, hanno ragione i fascisti, non si deve cantare Bella Ciao il 25 di aprile, ma si deve cantare il 28 di aprile. Una mattina a testa in giù, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina a testa in giù, il Duce non c'è più. Le brigate parenziane di stanza a Brisbane, Australia, vogliono ricordare il 28 aprile 1945. 75 anni fa moriva Sua Eccellenza. Onore! Eccolo! Tutta un coglionella, eh? Tutta un coglionella, eh? Tu ti rendi conto, David, che c'è anche Raffaele Cutolo che chiede gli arresti domiciliari per il coronavirus. Raffaele Cutolo che chiede gli arresti domiciliari. Abbiamo tutti seguito con grande interesse la puntata di Giletti di domenica. Sì, ma gli arresti domiciliari. Che ha posto all'attenzione del grande pubblico questo tema enorme. E tu sei d'accordo, e non ti indigni, su grandi boss mafiosi. Non ti sei espresso, ma sei a favore. Sei d'accordo col fatto che grandi boss mafiosi lascia perdere queste cose. Sei a favore che questi grandi boss mafiosi siano stati scarcerati e siano andati ai domiciliari? Assolutamente no. D'accordo? Assolutamente sì, no. Perché le tue vanno associazioni sono nelle d'accordo. Carceri. No, ma quindi questo mai? Io ti faccio querelare immediatamente. Ma vanno trasferiti nelle strutture adeguate, ma non sono i domiciliari, già in strutture adeguate. In strutture adeguate, signor Cutolo. Perché dovrebbe andare ai domiciliari, Cutolo? Perché dovrebbe andare ai domiciliari? Non deve andare ai domiciliari. Non ho mai sostenuto una cosa simile. Tutt'altro. Sì, vabbè, Ma guarda che è incredibile. Ti dovresti mettere nei panni, mentre non ti ci metti nei panni e parli ancora di sicurezza. Certo, naturalmente. Disse quello che si è fatto fare, fare gratis il test a casa. Disse quello che si fa fare i test che altri non possono permettersi di fare perché non sono famosi. Tu, come i calciatori, hai fatto la marchetta e ti hanno fatto gratis il test per vedere se. Di perché una società privata ti ha fatto fare il test? Spiegalo al grande pubblico. Spiegalo. È un gruppo di persone che lavorano insieme. E il cittadino comune lo può fare, certo, questo? Lo il può cittadino fare. Comune lo come ho pagato come, io lo senza paga. Pagarlo. No. Ma non hai pagato, hai confessato. Hai detto pagherò. Ma no, lo ma pagherai. Pagherò la persona perché che me l'ha fatto non l'hai fare. Ma non funziona così nella vita reale. Nella vita reale. Nella vita reale, se tu vai a fare la spesa, non dici io passerò. Ma che c'entra la spesa con tampone. Io passerò. Compri un tampone, una casa, dice scusi, questa casa che mi può dare l'anticipo. No, passerò. Dice cazzo, sono 200 comunque, mila euro. Mettere, no, passerò. Dovreste mettere nei panni. L'affitto, cosa dici l'affitto? Passerò. Ti dovresti non lo paghi. Nei panni. Ma la gente normale, vabbè, l'affitto lo paga. Lo ti paga l'affitto normale. Nei panni, ti dovresti mettere nei panni di questa barista che questa mattina, credo fosse su Canale 5, piangeva, singhiozzava perché non riesce benissimo. A capacitarsi del tutti fatto. Che in sicurezza, potrebbero riaprire non il primo giugno, potrebbero riaprire. Ha ragione, ha perfettamente ragione. Perfettamente ragione. I bar vengono classificati come luogo pericoloso e non è vero, perché anche noi comunque mettendoci in sicurezza possiamo lavorare. Io ho un bar in circa di 80 metri quadri dove adesso ho 4 tavolini a distanza di 2 metri ognuno, non ho nessun contatto col cliente, nessuno. I nostri clienti sono clienti abituali e noi sappiamo benissimo cosa prendono, non c'è bisogno neanche di parlare. Noi questo lavoro Natalia, lo facciamo con amore. Natalia, sì. non ti preoccupare, guardami, okay. Guardaci nella telecamera perché vorremmo vedere i tuoi occhi, ciao. Ok, grazie. E vergognati. Scusatemi. Tu vergognati dalla tua terrazza perfettamente. E dal fatto che vuoi restrizioni sempre più forti. I tuoi elogi del governo Conte. Non ho fatto nessun elogio, ho scritto 2 giorni fa che la fase 2 mi pare una strozzata gestita così. E l'ho anche detto pubblicamente in televisione. Ma che scherziamo. Però ormai dopo 7 anni che ho investito tutto, sono 30 anni che lavoro, 46 anni, mi dispiace lasciare tutta questa cosa così, perché non è giusto. Perché io sono una guerriera, combatto, amo il mio lavoro, amo vedere i clienti comunque sorridere, dare un buongiorno la mattina e io posso garantirvi che qua dentro le distanze di sicurezza ci sono, ho 4 tavoli. Io anche con quel poco riesco a fare poco, ma con niente non ce la faccio a sopravvivere. Ho 2 ragazze meravigliose e anche loro sono in difficoltà e io non posso anticipare i soldi a loro. Sono sono io sono così. Io piango sempre, mi commuovo, mi emoziono, però non voglio stare a casa, voglio iniziare la mia vita, anche se per poco. Voglio ricominciare ad avere le mie abitudini, a svegliarmi alle 4:30 del mattino come faccio da sempre. E arrivare qui, perché anche questo mi dà il coraggio, la carica. Fino al primo giugno è impossibile stare chiuso per te. Fino al primo giugno, ancora. No, è impossibile, non ho più. Comunque, ragazzi, al di là poi dei casi singoli, naturalmente, le persone che si emozionano, le persone che piangono, eccetera. E tu dal tuo terrazzino ti dovresti anche un po' pertratta, dal tuo terrazzo con le tue dirette ti dovresti anche un po' vergognare di fronte a questa signora, dovresti chiedere scusa. Io quello che posso fare, quello che faccio, cioè dovresti chiedere scusa ai lavoratori, a fare la spesa. Devo dire una cosa. Credo che tu debba chiedere scusa per le tue dirette sul terrazzo, sorridenti, con in mano cocktail, con un carré di pasticcini. Cocktail in mano, ma non carré di pasticcini che vengono portati. Ma è tutto documentato che non è così. Non è così. La gente crede sia vero. Di fronte a questa signora. Mentre questo non è vero, è vero che ti sei fatto fare il test e non hai pagato. Scusa. Dovresti chiedere, guarda la differenza. Scusa. Mentre non è vero che mi faccio servire pasticcini, è vero invece che tu ti sei fatto fare un test che non avresti dovuto, perché non avevi diritto, e non hai neppure pagato. Mentre quello che dice su di me non sono ufficiali. Ma quanti italiani lo vorrebbero fare? Ma lo possono fare tutti, lo possono fare. No, non tutti hanno un amico come te che glielo fa. Chiamano un'azienda, chi? L'italiano comune non chiama come te l'azienda, perché il tuo amico è amministratore delegato e ti offre gratis la possibilità di farlo, tu che ne guadagni 300.000 all'anno e non puoi pagare 30 euro per un test. Questa è la vergogna di chi si dice populista. Questo è lo stile. Questo è lo stile Rete 4, lo stile Mario Giordano. Quelli che urlano, il vostro stile, di quelli che urlano, aizzano il popolo e poi si fanno le marchette. Vi fate le marchette con gli amici vostri. Posso dirti che a Freccero sarebbe piaciuto Mario Giordano, cioè un Freccero direttore di Rete 4. Giordano l'avrebbe portato su un palmo di mano, secondo me, anzi sarebbe andato oltre, troppo poco quello che fa Giordano. Naturalmente, molto naturalmente alcune idee in nuce naturalmente sono molto interessanti, ma ancora siamo molto molto indietro rispetto alle grandi potenzialità naturalmente che la televisione ha. Dai, il rancore e la rabbia l'abbiamo già visto, la gente che urla in televisione, le piazze, è già fatto con Santoro 20 anni fa. Sì, quello è vero, quello devo dire. Andare oltre, dai, oltre la morte, naturalmente, è oltre. L'unica cosa che bisogna far vedere davvero, tutti che lo raccontano, dai, far vedere. Televisione si chiama. Cioè, secondo te, Giordano, per andare oltre, questa rubrica consigli di Freccero a Giordano? Siamo fermi ancora 20 anni fa. La piazza che urla, che si indigna, vergogna, vergogna. L'ho inventato io 20 anni fa con Santoro. Le piazze urlanti, dai, il linciaggio del politico, già fatto, naturalmente. Ora 20 anni fa, naturalmente, con Moby Dick, naturalmente, sì, con certo, Circus, sì, grande trasmissione di Santoro che si chiamava addirittura Circus, naturalmente, sì, Circus, dai, già fatto tutto. E dunque cosa dovrebbe fare Giordano? Cosa dovrebbe fare Giordano? Portare un morto di Covid a fare l'autopsia? Naturalmente questa potrebbe essere naturalmente una frontiera, naturalmente, sì, autopsie dei morti di Covid, telecamere naturalmente ovunque, dove c'è il dolore lì deve. Questa è la regola base. Ovunque, dove c'è il dolore, lì ci deve essere naturalmente una telecamera e un racconto. Lì. E poi oscurano per non far vedere i malati. Ma cosa oscuri? Dai, roba da raiuno che non fanno vedere in faccia. Dai. Anche questa cosa qui, quando non si possono inquadrare i bambini, i protocolli della tutela dei minori, dai, che non funziona più. Roba di 20 anni fa. La tutela dei minori, roba di 20 anni fa. Dai, ma non funziona. Per cui Giordano, per andare oltre, dovrebbe sicuramente inquadrare i morti, sicuramente lo spirare di una persona, gli ultimi attimi, naturalmente, cioè, con una telecamera lì sulla destra e i morti che spirano si possono usare anche grandi tecniche, naturalmente droni dall'alto, naturalmente, che poi planano su questi ospedali, naturalmente usare anche delle cose che hanno della spettacolarità. naturalmente la spettacolarità. Però manca la morte, dai, manca l'elemento. Non vediamo manco. La morte, non tutto stiamo vedendo la morte. No, non vedi, non c'è. C'è soltanto naturalmente Montalbano su Rai 1. No, dai, ma come si fa? O i virologi, oppure virologi. Virologo non fa ascolto più. Dai, a che racconta poi tutti con quella faccia che raccontano, è fase 1, fase 2, naturalmente è chiudere, aprire, ma cosa chiudi? Ma naturalmente, dai. Antonello da Messina, dai. Antonello da Messina. Ma dai. Comunque ragazzi, test, ripeto ancora una volta, rilievo IgG assente, rilievo IgM che hai fatto assente. Senza pagare. Quella là ci vuole, senza là ci voleva pagare. La telecamera. A non sfregio. Si vedono i tamponi. Antonello. Lo hai fatto a sfregio. Voglio sapere, dimmi, il nome della, sì, società, pronto, che ti ha fatto fare questa cosa. Dimmi, dimmi. Pronto? Dimmi Antonello, dimmi. Sì, no, oggi ho sentito su una trasmissione di una radio privata, Porro. Porro, che sì, stava difendendo Feltri. La radio privata, che vuol dire? La radio è privata. Una radio privata, la radio che parla. Tutte di sono porro, sono quasi tutte private. Comunque, vabbè, allora. No, vabbè. No, non sono tutte private. Beh, tranne la Rai, le altre sono tutte private. Vabbè. No, è privata, vabbè, Radio 24. Non hai capito, vabbè, un cazzo. È una radio differenza privata che parla solo su una città, parla di sport. È intervenuto lì per difendere Feltri, ma dico. Perché ci avete proprio il marmo in faccia? Tu pure lo difendi. Ma io difendo la libertà di Feltri di dirlo. Ma che la libertà. Lui per giustificare. Ma sarai tu ubriaco, ma sarai tu ubriaco, sei ma tu ubriaco. Lui ubriaco, tutte le volte ubriaco. Ma sei tu ubriaco, sarai tu ubriaco. Lui non ci può, sai perché non si giustifica? Perché dice dopo perdo la mia personalità. Allora deve dire che è ubriaco, non può dire una cosa del genere, capito? Inferiorità, sai che lo diceva? Chi? Mussolini. Che c'entra Mussolini? E lì a Rai 4, con te compreso, c'avete tutto lo stemma in testa. Che schema in tu testa? Tu avrai pure i tatuaggi in faccia. Ma io guarda, tatuaggi non ne ho, per cui è difficile. Sì, ce l'ha, guardate bene, non faccia, guardate bene all'altra ma non faccia, ce l'ho, quella che c'hai. Ma ce l'hai te il tatuaggio, ma sei impazzito. Ce l'hai il tatuaggio della svastica dietro al culo, capito? Perché tanto tu in faccia c'hai il culo. Ma questo è impazzito. Qua si aprono dei nuovi scenari che non sapevo. Ma quando fai scenario di che cosa? Che non ho manco qua tatuaggio si aprono delle mia cose che non ma che sapevo dice? Io. Però. Ma questo se lo dice l'ascoltatore, ma lo dice una, non la tua logica. I tatuaggi anche sotto pelle, capito, caro? Ma di che parlate? Ma questo è un cretino. Ma questo è un coglione. Lo dice l'ascoltatore. Lo dice l'ascoltatore, no? Tu sei uno ma stronzo, come peggio perché tu non hai mai indovinato un cazzo. Ma questo e qua vai a baciare i cinesi e c'è stato quello che è successo. Ma questo è un malato di hai mente. Fatto una ma sei un malato. Di gomma, ma a piede petto una romba di 35 anni con 12 figli. Ma sei un ma sei un malato di mente. Tu sei un pezzo di merda, non capisci. Aspetta, fermo là, rincoglionito. Ma adesso ti mando a fare in culo bene, aspetta. La zanzara. No, niente, no, ti volevo parlare anche del fatto di, poi volevo fare un complimento a te, che vedendoti in televisione mi ricordo il mio amico che aveva 31 anni, poi c'è morto con un incidente d'auto. Forse te l'avranno detto, Rino Gaetano, tu assomigli molto. Ah, ecco, sì, sì, ho capito. È normale, è normale. Cruciani, ma perché ultimamente conduci le puntate stando in piedi? Io ho chiesto un po' in giro e pare, sembra, si dice che c'entri Efebal, ti chiedo conferma, è vero che ti ha piallato il deretano ed è per questo che stai in piedi? Chiedo, eh? Eccoci. No, amico mio, no, non c'entra niente, non c'è nessuna piallatura del deretano avvenuta da parte della signorina Efebal, detta anche il turco, da Parenzo. No, semplicemente questa signora Efebal. No, non esiste questa cosa qua, non esiste. In piedi perché ogni tanto mi esalto a stare in piedi per rispondere meglio al turbo Parenzo, come direbbe Fusaro, la cui presenza si fa, la cui assenza in questo periodo si fa sentire. Chissà no, cosa sta facendo no, il turbo. No, sta leggendo lo Hegel, probabilmente. Sta leggendo per la millesima volta lo Hegel. Posso dirti leggendo un'altra cosa, caro David? Allora, secondo te le prostitute, una persona che frequenta le prostitute in maniera regolare, e pensa di avere un affetto stabile con una prostituta. No, ancora costa vergogna, con tutti i problemi che ci sono, continui a parlare delle prostituzioni. Ma ci sono 9 milioni di italiani che vanno a prostituzione, secondo le ultime statistiche. Con tutti i problemi che ci sono nel paese, ma è anche quello un problema, certamente, certamente, perché la grande idea potrebbe essere questa: fare un tampone anche a tutte le prostitute. Perché questo comparto non deve ricominciare a lavorare? Perché viene ghettizzato? Perché viene un inutile conduttore radiofonico gratuitamente? Ma quello non è il tampone, quello è un'altra cosa, il test sierologico. Sì, un test sierologico per vedere se uno è positivo o no. Per far riprendere l'attività anche a queste signore. Perché no? Perché le vuoi marginalizzare? Perché le vuoi considerare? Perché le vuoi che siano neglette? Perché le vuoi che siano dimenticate? Perché vuoi che siano messe lì in un cantuccio? No, ma io non voglio nulla. Dimenticate. Sì, ma tu non le consideri come comparto, lo vuoi annullare, lo vuoi cancellare. Non voglio nulla di tutto questo. Comunque ci sono persone che hanno rapporti stabili con prostitute, dunque potrebbero tranquillamente considerare le prostitute come loro rapporto affettivo stabile e andare tranquillamente da una zoccola. Dovrebbero mettere come possibilità nella famosa dichiarazione che si dovrà fare: vado a prostituta perché affetto stabile. Io trovo incredibile che questa trasmissione vada ancora in onda. Io non mi capacito ogni giorno. Ogni giorno quando alle 18:32 mi metto nella mia postazione, però mi domando perché va in onda. Sarà contro il mio interesse, ma me lo domando. È incredibile. Comunque oggi ti segnalo che un signore che si chiama Sorbello, consigliere comunale a Messina. Ah, come no? Certo. Che cosa ha fatto? No, non lo sai, non lo conosci. Ha pubblicato un necrologio di Mussolini. Io, come sai, ogni giorno tutte le cose che afferiscono, diciamo, alla materia fascismo barra neofascismo, cioè un necrologio sono da me monitorati. Con la faccia di Mussolini, con una foto a mezzo busto, le sue iniziali e la didascalia 28445 28-4-2020. Rosario alle 18:15, dunque già passato, per Sua Eminenza Cavalier Benito Mussolini. Le famiglie dei caduti e dei dispersi della RSI si riuniranno idealmente in preghiera e ti ricorderanno sempre nei nostri cuori. Coi tedeschi, però si devono. Questo c'era scritto. Governo fantoccio. Eravamo con Antonello da Messina. Avanti. Sì, con Antonello da Messina. Allora, che cazzo vuoi? Antonello da Messina non è un pittore. Rete 4. Ancora con sto Rete 4. Ma occupatevi di altri problemi. Occupati del tuo cesso. Occupati del tuo bagno. Occupati della tua prostata. Della mia nazione. Occupati della tua prostata. Che gli devono dare l'associazione a delinquere. Ma chi è delinquere? Anche tutti quanti vedete 4. Ma perché? Perché fate schifo. Ma perché? Cosa fa? Perché parlate sempre. Guarda, ti saluta il Ponte Morandi, caro. Ma occupati della tua prostata. Occupati della. I 4 che stanno al governo, lo sai che hanno fatto per fare l'autostrada Salerno Reggio Calabria 20 anni. Pezzo di merda. Ma cosa c'entra? Ma che c'entro io? Ma cosa c'entro io? Il giornalista olandese c'ha ragione. Bravo. Ai mafiosi, ai politici lo diceva, no? Ai siciliani. Ma questo è impazzito. Ma questo è impazzito completamente. No, sei pazzo tu. Io ti sto dicendo la verità. Ma che cosa? Ma su cosa? Ti ha stanato. Ti ha stanato. Ma su cosa? Ma su cosa? Ti ha stanato. Ma su quello che hanno rubato fino adesso. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Questo si trova adesso qua 2 anni. Ti ha fatto il Ponte Morandi. Ma chi? Leve del cappello, ma stronzo. Chi? Ma chi? Tu, Sallustri, Berlusconi, tutti Conte, quanti. Conte, ha fatto lui il Ponte. Chiuse la trasmissione, vedete qua, perché non valete un cazzo. Ma, capito? Ma perché sei sempre così avvelenato? Perché io sei così avvelenato perché gliela faccio più a reggere, siete proprio falsi. Ma perché stai dentro casa, hai il problema del lockdown. Stai dentro casa. Ma che c'entra la Santa Anche? Ma che c'entra la Santa Anche? 35 anni, 12 figli. Ma chi? Oh, ma chi? Ma che mentre invece tra zingari, tra rom, a fare figli a 12 anni, sì. A 13 anni, è una cosa normale. Ah, è normale. Ma chi vuole deve incantare? Ma ti devi vergognare a dire queste ma cose qua. Ma tu devi vergognare, stronzo, ti perché devi... è una cosa normale tra zingari che fanno figli tra fratelli. Ah, è normale, è normale. Voi. Cioè, ma questo da dove spunta fuori? Ma da dove, spunta? No, 4. 4 sono poche. Ma sono poche 4, ne ha fatte 20, 30, 40. Se piace lei, è ricca. Ma questo è completamente pazzo, Antonello. Io so, ma tu sei fuori di testa. Il lockdown ti ha dato la testa. La chiusura ti ha dato la testa. Analfabeta, ha 12 figli. Si chiama analfabeta, no inalfabeta. Analfabeta. Ma ammazza quanto sei bravo istruito. Ma non sono bravo istruito. Tu sei semplicemente. Sei semplicemente un coglione. Ma che vuoi giustificare? Vabbè, ho capito, questo. Il lockdown ti ha dato la testa. Non capisci un cazzo, andate a cercare una poraccia. Ma chi? Ma di cosa? 5 anni, 12 figli. Quello, Davide, questo è il problema della chiusura. Di... Problema che cosa? No, il problema dei cervelli. Il problema psicologico. Il rotolo di coppa, amico tuo, del Verbio, sì. Ci ha fatto 4 trasmissioni. No, 4, di più, 10, 20 vedi, ne ha la gente con te, la gente ti ha smascherato. La ma gente cosa? Ti ha smascherato. Ma questo qua è un malato di mente. Ti ha smascherato. Questa è la prova che il lockdown sta creando una situazione mentale gravissima. Vi ha smascherato a tutti voi. La chiusura sta creando una situazione mentale. Ma gravissima. Quale chiusura? Io so di la verità, ti sto dicendo. Ma tu hai la mente bacata, distrutta da questo lockdown, da questo coronavirus, hai la mente ormai in fumo, il cervello in pappa, hai il cervello in pappa. Io sto mille volte meglio di te, sei tu che non capisci un cazzo. Hai il cervello in pappa, Antonello. Hai il cervello in pappa. A me mi vengono a chiedere la gente. A te la gente di 50 anni, se ti vengono a chiedere i consigli, a me sì. Ma vattene a fare in culo. Ma vai a fare in culo. Che non hai indovinato mai un cazzo. Ma vai a fare in culo. Ha detto tutte stronzate. Perché finisce sempre così? Spiegami perché finisce sempre così. Fatti i casi tuoi, puttana. Andando a rimbangare una storia meravigliosa che abbiamo trattato a lungo, una storia incredibile che riguarda la comunità rom. Per favore al volo il numero di quel mussoliniano fascista eccetera, così divertiamoci un attimo, dai. Però vai all'attacco. Pronti. Pronto? Sorbello? Sì. Eccoci. Pronto? Qui. Allora, come andiamo con questo necrologio di Mussolini? Com'è andata la situazione? Sono Cruciani, buonasera. Sì, buonasera. Allora, io sostanzialmente ho. Lei ha fatto un necrologio di Mussolini, diciamola tutta. Sì, certo. Allora, non ci tiriamo indietro di fronte a questa cosa qua. Un necrologio di Mussolini, certo, per ricordare Sua Eminenza, giusto? Sua Eccellenza. No, al defunto Mussolini. Defunto. Le mando pure lo show, non è un problema. Sì, ma ho capito che sia defunto. Che sia defunto, non c'è dubbio. Per Mussolini. Fortuna, certo. per fortuna. Lui che sia defunto, per fortuna. No, lui, chiunque. Per fortuna. Sorbello dice, Sorbello non l'ha detto. Io per dico fortuna, per fortuna. Io aggiungo per fortuna. Il defunto per fortuna. Lei dice per fortuna, Eccellenza. Sorbello? Lei dice per fortuna? Ma lo scherzo. No, ma lei dice per fortuna o no, Sorbello? Non ho capito se lei dice che è defunto per fortuna oppure no. Oppure Mi dica che ore sono in questo momento. 19:43. Sono Cruciani, Radio 24. Qui col signor Parenzo. Non si preoccupi. Siamo qui. Allora, siamo qui. Ascolti. Dimmi. In Italia non esiste alcuna limitazione alla pietas di un defunto. Attenzione. Ah, lei rivendica. Ascolti, e facciamolo pure per Totorina. Aveva i suoi diritti e ce l'ha anche da morto, se lo vuole sapere. Faccia pure il ricordo di Totorina, allora. Vediamo se c'è la stessa indignazione. Saranno i parenti a ricordarlo. Assolutamente. Vabbè, ma lei l'ha pubblicato il necrologio, significa che è un po' mussoliniano. Lei è mussoliniano, lei è un ammiratore di Mussolini, altrimenti uno non pubblica il necrologio. Io non sono ammiratore del regime fascista. È uno a cazzo di cane pubblica. Io non sono assolutamente. Lei non mi fa parlare, allora non c'è. No, siamo qui. Dimmi. No, ma c'è libertà di espressione. Però non è che uno che non è ammiratore di Mussolini pubblica il necrologio di Mussolini. Ascolti, è impossibile, no? L'uomo Mussolini è un conto, così come l'uomo Pertini è un conto. Che c'entra Pertini? L'uomo dittatore Mussolini è un altro conto. Io non ammiro l'uomo. Ti sei confuso. Mussolini che ha fatto tanti errori. Ma ammiri l'uomo. No, ma ascolti, io ricordo l'uomo. Ma se lo ricordi lo ammiri, non ci pigliamo allora, per il culo. Ascolti, c'è una sentenza della Cassazione che parla chiaro, non mi voglio impelagare in ma cose che c'entra che la Cassazione adesso? Non sono più... Che c'entra sì, la Cassazione? La Repubblica Sociale Italiana, se lei non lo sa, sì. I combattenti di quella Repubblica sono stati riconosciuti quali combattenti... Allora lo dica, io sono un ammiratore della Repubblica Sociale Italiana, sono un nostalgico, sono mussoliniano... Sto dicendo che grazie alla liberazione dell'Italia, grazie alla nostra carta costituzionale, è pubblico e necrologio, Parenzo, di qualcosa tu, ti prego. È libero di esprimere ma certo, certo, assolutamente. Ma non c'entra niente questo. Ma infatti nessuno però, dice niente. Signore mio, un cittadino normale, con tutti i casini che ci sono in questi giorni e in queste ore, a una persona normale non gli verrebbe mai in mente di ricordare quello stronzo di sua eccellenza. Tutto qua, questo dico. Ascolti, questo dico. Ascolti, una persona normale oggi di non dire dice che è uno stronzo. Ma, posso dire ma ti un criminale, no, un minimo, un criminale. Ma che c'entra Pertini adesso? No, Pertini è stato il capo dello Stato, grande partigiano e capo dello Stato. Mussolini, io posso dire che è uno stronzo Pertini. Ma uno era un dittatore, l'altro era un democratico ascolti, che ha liberato l'Italia ed è stato in galera per colpa dello stronzo liberato, suddetto. Cosa l'Italia? Pertini al sud gli americani, come lei sa, dove sono sbarcati gli americani? Dove sono sbarcati gli americani? La storia, dove sono sbarcati? Allora, Pertini è uno dei tanti che ha liberato l'Italia. No, però scusami. No, fermi, Sorbello, il punto fondamentale è questo. Abbiamo capito che questo qui è un fascista e non ha neanche coraggio di dirlo. Ma voi pensate che io sia fascista? Non ho nessuna storia di fascismo. No, ma se uno pubblica, però scusami Sorbello, se uno pubblica però un necrologio del signor Mussolini, adesso non è che uno non è che uno la mattina si sveglia e per la libertà di espressione pubblica il necrologio per la morte di Mussolini. Invece proprio di sì, invece sì, proprio così, questo, uno che non ha nessuna... Ma se uno non ha nessun tipo di nostalgia, è chiaro che non lo fa, no? No, non è che, l'ho fatto perché in questo paese c'è una scandalosa mancanza di libertà di espressione. Lo faccio ma se ci sono fascisti da tutte le parti che parlano, che dice? Ma parlano, ma non sanno quello che dicono, quelli non sono fascisti. Vabbè, ascolti bene. Sorbè, ho capito. Questo paese è sotto regime comunista. Come regime comunista? Se già voi non mi fate parlare. Ma sta parlando da 4 minuti, ma qual è il regime comunista? Che uno fa il cazzo che vuole, lei pubblica l'elogio di Mussolini e l'elogio di Mussolini, c'è il regime comunista, ma di che parliamo? Mi scaldate, porca puttana, mi fate parlare. Ma allora, lei è porca puttana, lo dico io cazzo, lo diciamo noi, cazzo, noi allora, la dittatura comunista, cioè dai, al massimo quale... ma se la pigli con Zuckerberg, se la pigli con Facebook, a me che cazzo me ne frega. Esatto, lei può pubblicare quello che lei... vuole, pure l'elogio di Hitler può pubblicare, poi se ne assume la responsabilità. No, però io non pubblicherò mai l'elogio a Hitler né l'elogio a Mussolini per ciò che ha fatto. Quando uno fa, quando uno quando uno scrive... Dunque, c'è da notare una cosa, scusa Cruciani, c'è da notare una cosa, ancora una volta Messina non fa una bella figura, ancora una volta Messina non fa una bella figura. Noi abbiamo un sindaco, perché noi abbiamo un sindaco che si chiama Catero De Luca, che non fa fare una bella figura alla città. Poi immaginavo, poi c'è un altro stronzo che qualche giorno fa abbiamo chiamato, qualche altro stronzo di Messina che ogni tanto chiama. Ex legionario, e adesso c'è questo. Io penso che quello c'è Mauro da Messina. Io penso che questa città non ne esca bene. Io sono Parenzo. Parenzo, io sono Parenzo. Parenzo. Mentre lei è un pirla. Diciamolo. Allora, no, abbiamo già sentito. Il problema tuo, sai qual è? Che tu sei un validissimo giornalista, però evidentemente dal punto di vista giuridico non capisci un cazzo. Ma cosa c'entra? Perché qui non stiamo parlando in punta di diritto. Chi se ne frega? Uno che sta commettendo una violazione, quello sei tu che mi dai dello stronzo e che mi dai e che mi insulti. Quale violazione? È una constatazione. No, è ma una chi constatazione. Fermo. Dare dello stronzo a uno stronzo è una constatazione. No, attento, non vorrei che si cadesse un momento. Non si può dire che uno stronzo sì. È pure una constatazione. Non vorrei un momento. Non vorrei si cadesse scusi, un momento. Scusi, Capanna, lei che cosa avrebbe dare fatto all'epoca con questi qua che sì. Pubblicavano i necrologi di Mussolini? Naturalmente lei che cosa avrebbe fatto? Presi a calci nel sedere, sarebbero scappati come conigli per tutta la città. Inseguiti e scappati come conigli. Ma che state dicendo? Capanna, un attimo, è intervenuto Capanna, un attimo, lo conosce Capanna lei? Capanna, la granita. Allora, Mario, non ho capito, cosa avreste fatto voi all'epoca? Scusi. Naturalmente, negli anni 70 questi non si sarebbero permessi neanche di dire A e neppure Ba. Li avremmo inseguiti per tutta la città e sarebbero scappati come conigli. Li avremmo inseguiti per tutta la città. Soltanto insultando, non sapendo può lasciare parlare Capanna o no? Lo vuole lasciare parlare, cazzo, Capanna? Capanna, che uno è stato uno. Negli anni 70 c'era un motto: dai Katanga fuori la spranga. E naturalmente in quegli anni lì, formidabili quegli anni, i fascisti scappavano come conigli. Questo dunque, questo signore qui, questo signore qui non si sarebbe potuto, cioè nemmeno non si sarebbe neppure permesso, naturalmente. Avrebbero chiamato le nostre squadre speciali e non si sarebbero permessi di proferire parole, naturalmente. Cioè, chi pubblica un necrologio di Mussolini, secondo lei che cos'è, Capanna? Mi spieghi un attimo. Beh, è naturalmente un fascista che va messo all'indice, va denunciato all'indice, certo, naturalmente, va inquadrato, va denunciato, va schedato. Grazie, grazie Capanna, grazie. Sorbello, arrivederci, grazie. Non c'è più tempo, Capanna, ce ne sono 3 secondi. Va bene, rispondo a Capanna, rispondo a Capanna. Non c'è libertà di espressione e di opinione. E perché? Ma come non c'è libertà? Ma chi l'ha detto? Ma chi lo dice? E come, perché? Perché voi potete dare dello stronzo a qualcuno che pubblica un necrologio di Mussolini, chi lo pubblica invece si deve stare zitto. Ma voi vi rendete conto? Ma lei questa non è libertà dopo 70 anni. Ma lei ha pubblicato il necrologio di Sua Eccellenza, poi perché lo chiama Sua Eccellenza? Perché lo chiama Sua Eccellenza lei? Perché era Eccellenza, Sua Eccellenza il Cavaliere, questi sono titoli che è autodato. Se l'è dato lui quel titolo. Ma se l'è dato lui quel titolo di Sua Eccellenza, che cosa dici? Se l'è dato lui il titolo di Sua Eccellenza, se l'è autodato, se l'è autoconferito. Ma scusi, Re d'Italia che fa? Sua Eccellenza, che c'entra il re? Ma Herrera, re, quello se l'è autodato, perché era talmente stronzo. Era talmente stronzo che si è dato pure il titolo di Sua Eccellenza. Infatti maresciallo era un mezzo dittatore. Infatti un altro dittatore, è quello. Un pezzo di merda il maresciallo Vito. Ma mica era un liberale. Ma pure Mussolini era un pezzo di merda allora. Perché ma tutti sono stati macellai in guerra. In guerra è così. Come però, uomini però come infatti lei ha fatto due esempi. Cosa di due salva lei di Mussolini come sono uomo? Autoconferiti come titolo di Sua Eccellenza. Come uomo cosa salva di Mussolini lei, Sorbello? Cosa salva di Mussolini come uomo? Come uomo, come uomo. Io vi dico una cosa, che per me è stato il più grande statista che abbiamo avuto in Italia. Eccolo là. Io come uomo politico lo vedi? Lo vedi dove andiamo a finire ogni volta? Lo vedi come andiamo a finire? Lo vedi come andiamo a finire ogni volta? E poi dice che non lo è. E poi mi passi a Parenzo. No, aspetta, richiama Capanna un attimo. Rifate il numero di Capanna, un minuto. Capanna, rifai il numero, forza. Facciamo il numero di Capanna un attimo. No, perché cazzo, adesso ci vuole di nuovo l'intervento di Capanna. Allora, gli statisti... Allora, ascolti, gli statisti... Che ha fatto di buono per l'Italia? Mi avete telefonato, non mi fate parlare. Stavo semplicemente sentendo il proseguio della trasmissione e dico che naturalmente... Quindi dove siamo in onda? Radio 24. Confindustria, i padroni. Dimmi, allora dimmi che stavi dicendo. Bravo, naturalmente non sarebbe possibile oggi un delitto Matteotti, perché ci sarebbero le milizie di Capanna a salvaguardare la democrazia. Quindi questi personaggi Come è stato accertato? Lei ha detto che Mussolini è stato un grande statista. Cosa ha fatto per l'Italia di buono Mussolini? Lo vogliamo dire? Secondo lei, per l'Italia. Quindi secondo lei noi siamo conosciuti per quello che hanno fatto dopo i comunisti? Mi faccia capire. Ma quali comunisti? Non hanno mai governato i comunisti in Italia. Ma che sta dicendo? Capanna, dov'è Capanna? Ma quando hanno governato i comunisti? Grazie a Mussolini. Grazie a Mussolini. Grazie proprio alle politiche e alla visione che ha avuto lo statista. E poi dice che non è fascista. Poi dice che non è fascista. Ma che vuol dire? Capanna, intervenga un attimo. Voglio Capanna. Chiedo semplicemente alle maestranze della radio al lavoro, sia dentro che fuori la città di Milano, di fornirmi immediatamente, illico hac immediato, l'indirizzo e il numero di questo fascista, perché credo che nelle prossime ore bisognerà assolutamente andare a fargli visita. Quindi come si usava nei favolosi anni 60-70, per cortesia fornire numero, assolutamente no, con bandiere e striscioni sotto il suo balcone, con bandiere e striscioni sotto il suo balcone, a cantare Bella Ciao, ci troveremo a Messina, senza violenze, senza violenze. La canti, la canti, la canti, partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, perché io penso di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Ad uccidere quei poveri innocenti, quella popolazione civile che non c'entrava niente. Chi ce l'ha sulla coscienza 335 morti? Cabanna, chi ce l'ha sulla coscienza 335 morti? Che cazzo canta Bella Ciao? Onore al comandante Pesce, grande gappista. Onore al comandante Pesce, grande gappista. Quando c'è stato grande, grande gappista. Onore a lei Pesce. Si vergogni di chiamare Sua Eccellenza Mussolini, di chiamare Mussolini Sua Eccellenza Cavalier Mussolini. Sorbello, lei consigliere comunale a Messina, mi pare chiaramente fascista. Ma di che partito è? Scusi. Parenzo, Luciani, Parenzo è tornato, lei o no? La Costituzione non lo sarei mai un fascista. Ma l'ha detto. Scusi, ma di che partito è questo? Ma io, di che partito è questo? Democrazia Cristiana, bella spaccata, glielo dico con tutto il cuore. Ma non esiste Sicilia, saluti al grande. Un grande, se lei dovrebbe fare un monumento al comandante Giovanni Pesce, al grande partigiano Pesce, uno di un grande eroe della patria. Pesce, eroe della patria. Ma non ho capito, Capanna, vogliamo dare l'indirizzo a Capanna o non glielo diamo, Parenzo? Non ho capito. Sì, Capanna voleva l'indirizzo per andare a trovare questo signore qua. Per, no, sì, semplicemente venga, venga, le offro una gradita a Capanna. Ma nessuna gradita. Ha avuto il coraggio di dire che Mussolini ha fatto delle grandi cose. Grazie a Mussolini siamo la settima ottava popolazione. Non è l'unico che lo dice. È invitato a casa mia, ospite gradito. E con lui ci documenteremo. Lei ha dato il peggio, lei ha dato il peggio del peggio questa sera. Arrivederci. Arrivederci. Tutto inventato così all'impronta. Mamma mia, ragazzi. Una cosa incredibile. Una cosa pazzesca. Una cosa veramente un'ansia, sta musica. Non c'è mai un momento in cui uno tira come il respiro e fa una riflessione. No, due ore martellanti proprio. Ragazzi miei. Giovanni da Ferrara, avanti tutta ragazzi, dai, avanti tutta. Tutta bella gente che telefona, una cosa incredibile. Dimmi. Mi fa piacere che tu stia bene, sono molto contento. Beh, grazie. Ma io devo dire la verità, preferivo, amico mio, essere ovviamente con gli anticorpi, però vabbè, alla fine la dottoressa mi ha detto, amico mio, detto, non era una dottoressa femmina, infatti, certo, per forza, erano due dottoresse. Hanno scoperto altre, due scelta? Erano addirittura. I normali, le persone normali ne hanno una, lui due, non l'ha pagato e ha avuto una cosa che altre non hanno. Benissimo, un altro che faceva il testo. Andiamo avanti. Ogni minuto scopriamo elementi nuovi. Non doveva farlo ed è riuscito a farlo. L'ha fatto gratis. Due infermiere di 30 anni, bionde, che vanno a casa a farlo. Perfetto, evviva. Mamma mia, l'elite proprio. Guarda, io mi fa abbastanza schifo la figura politica di Giuseppe Conte, cioè ha fatto prima il governo con Lega, Salvini, poi con 5 Stelle, eccetera, eccetera. Sì, il PD, col PD giorno, più che con 5 Stelle l'aveva già fatto. L'altro giorno ha usato una conferenza stampa per fare i nomi degli avversari. Ma Conte è un democristiano, ragazzi, un camaleonte che può stare con chiunque, potrebbe fare il governo pure con Forza Nuova, cioè non... Sì, vabbè, comunque diciamo che non incontra i miei gusti, ma quello che ti voglio dire è che sul tema coronavirus emergenza io sto dalla parte sua, perché non è possibile in questo momento in Italia pensare di riaprire tutto. Cioè, in questo momento vi stanno dando addosso tutti. Ho sentito anche amministratori di sinistra, ho sentito Bonaccini. Ma ragazzi, perché non c'è una visione in Francia? Ti posso dire perché? Cioè, tu ascolti stanno in televisione. Se tu in ascolti. Ma aspetta, che palle che sei! Il piano francese annunciato. Se tu ascolti il piano francese annunciato dal primo ministro. Ma l'Italia non è come la Francia. No, ma lasciamo perdere. Lascia perdere i dettagli. Stanno tornando indietro. Ci sono più. Non è questa la cosa interessante. Innanzitutto, poi magari torneranno indietro su tutto. Riaprono i negozi, 700.000 test, responsabilità individuale, 700.000 test a settimana. Cioè c'è una chiarezza, una visione, vedi, poi magari ci saranno. Vedi, qui invece si sta parlando delle cose, dei congiunti e degli affetti. Cioè questi non sono stati capaci in 2 settimane, 3 settimane di elaborare una strategia su chi si può vedere e chi non si può vedere. Ma questa è la differenza. Questa è la differenza. Tu devi pensare anche al fatto che abbiamo avuto. Ma negli altri paesi non si parla di congiunti, in Francia non si parla della puttanata di chi puoi vedere e chi non puoi vedere e chi sono gli affetti stabili, non si parla di queste cose qui, non si parla. Ma secondo te dal 4 di maggio si sarebbe dovuto aprire tutto? Molti mi rimproverano che io dicevo militarizzare. Certo, prima gli dai il ferro, come si diceva una volta, prima il ferro e poi la carezza. Cioè prima il ferro e poi la carezza, prima la è così, cioè nel senso prima dai la bastonata, quella seria, militarizzando tutto, come io volevo, anche di più di quello che è stato. Dopodiché poi a un certo punto quando capisci che la situazione ormai non è che, cioè, in alcuni posti non si può più parlare, in alcune regioni non si può più parlare di contagi, cazzo, lì devi liberare con la responsabilità individuale. Fermi tutti. La Zanzara. Parliamo di cose sensate, per favore. Cruciani, parliamo di cose sensate, per favore. Sono momenti importanti per il paese. Parliamo di cose importanti, per favore. Sciopero dei taxi, fanculo, chiamo Uber. Quando segna Ramsey, sparisce uno youtuber. Ti tiro in mezzo un bangla che vuol vendermi una rosa. La noce è peligrosa, Milano, sushi e coca. La noce è peligrosa, una puppa peligrosa. La noce è peligrosa, sexy outfit tutto rosa. La noce è peligrosa, non sto in piedi ma sto in posa. La noce è peligrosa, storta sì ma favolosa. Andiamo pure. Adoro, adoro, adoro la Zanzara. Adoro. Andiamo pure. Adoro. Che ne pensi di questa trasmissione? Io non ascolto mai la Zanzara, non mi interessa assolutamente niente. E poi paga sempre pantalone. Ma e c'è Barisoni? Avevamo un mucchio di puttane in giro. E avevamo sempre l'uccello duro e... Così proprio. Ormai c'ho la tendinite da seghe. L'idea per permettere la mobilità di Parenzo. Parenzo può dire che è fidanzato col turco Efebal e così può andare a Milano. Cruciani si schiera dalla parte dei parrucchieri e degli estetisti. Che non si taglia i capelli da un ventennio, c'ha l'olio di ricino nei capelli, porca di quella puttana, c'avrà i piedi che puzzano talmente tanto che un estetista altro che mascherina si deve mettere le tute antiradiazioni come a Chernobyl, ma vaffanculo va. Italiana. Sono italiana, devo lavorare con le misure di restrizione, dobbiamo convivere col coronavirus, vergogna, vergognati con tutti quei slogan, usciamo, andiamo, facciamo 7.000-20.000 morti nella coscienza, vergogna, dobbiamo lavorare, dobbiamo convivere col coronavirus, tanto se mi ammalo lo stesso muoio. trasmissione, ragazzi, che trasmissione, che trasmissione. Incredibile, incredibile. Mi hai insultato praticamente per un'ora e mezza. Mi hai insultato per un'ora e trenta. Ho calcolato insulti personali rivolti da te nei miei confronti per un'ora e trenta. Hai immaginato che io abbia dei tatuaggi con delle cose strane, che sai benissimo che non mi sono mai fatto un tatuaggio in vita mia. Mi hai insultato perché io ho fatto oggi una cosa che sarebbe sarebbe lo Stato a doverlo fare, sarebbe lo Stato a doverlo fare. E tu, sarebbe lo Stato a dover testare le persone. Ma non c'entra il privilegio. Siccome sei famoso grazie a un privilegio, non hai pagato il test e hai fatto una cosa che milioni di italiani vorrebbero poter fare. Ma quale test sierologico, dai. E vergogna di questa, non l'hai neanche pagato, non l'hai. E poi come al solito hai fatto la tua solita cazzate sul giornalista sovranista, eccetera. Hai passato un'ora e trenta ad insultarmi. Un'ora e trenta ad insultarmi. Un'ora e trenta. Posso segnalarti una cosa prima di tornare con gli ascoltatori? Allora, io qualche volta me la sono presa con la signora Boldrini, anche con toni molto forti, mai toni diffamatori, tant'è che non c'è una diffamazione. Ora, ti pare normale, caro David, che la signora Boldrini in questa, come dire, tempesta, in questa situazione drammatica, come tu hai detto prima, quel signore che faceva l'elogio del signor Mussolini, quel signore prima da Messina, sì. Ti pare normale che la signora Boldrini si occupi dei componenti delle task force? Già le task force sono una puttanata inaudita, che solo in Italia abbiamo non so quante task force per circa 400 persone. Ci sono poche donne in quella task force, ci sono poche donne, no, ma senti, non so cosa ha detto la Boldrini, ma nessuna, ci sono poche donne. Non ce n'è nessuna forse. No, ce n'è una, Sadun, Raffaella Sadun. Sì, non lo so, chiama, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Economista che peraltro io conosco da tanti anni. Mamma, non questo non ci interessa, ma non ci interessa. Ma non è questo, ma ci sono poche donne e il fatto che siano poche donne si vede. Perché in realtà la questione del come si gestiscono i bambini all'interno delle famiglie lo sanno pure le donne e gli uomini. Ho depositato insieme a 42 deputate interrogazione al governo per chiedere di rispettare la parità di genere in task force e prossime nomine. Quando toccherà farle al Parlamento, se non ci sarà significativa presenza femminile, non le voterò. E uno potrebbe dire, e sti grandissimi cazzi, e non sarò l'unica. Ora io dico una cosa, caro David, va bene tutto, ma mi sta bene tutto, le battaglie per i nomi al femminile, quello che vuoi, ma agli italiani in questo momento, agli italiani che lavorano, non agli italiani che stanno in Parlamento e probabilmente devono trovare il modo per farsi notare, per farsi vedere. Cosa cazzo gliene frega? Uno delle task force in generale non gliene può fregare di meno quello, di chi insomma, sì, non gliene frega un cazzo. Ci informiamo, sì, cerchiamo purtroppo, di capire. Purtroppo sappiamo che non bastano i parlamentari, le commissioni e sto cazzo, eccetera. Ci vogliono anche le task force di specialisti. Non bastano 900 e oltre parlamentari. Ci sono anche le task force. Uno. Secondo, la componente femminile delle task force. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo? Ma siamo seri o siamo uomini o caporali? Avrebbe detto il signor Totò. Siamo uomini o caporali? E dai, su, forza. Sara da Roma, dai, Sara da Roma. Avanti tutti. Non mi fate Buonasera. Incazzare. Dimmi. Buonasera. Allora, io chiamo per dare voce a tutti quelli che come me il famoso congiunto lo vedranno nel 2000 e mai probabilmente. Perché il mio congiunto non è neanche in Italia, ma è bensì in Spagna. Cioè il tuo allora, congiunto che chiedo... vuol dire? Fidanzato? Che cosa fidanzato, vuol dire concretamente? Fidanzato, non siamo sposati, sì, siamo ufficialmente fidanzati da un po' di anni, ma la legge ovviamente non lo sa. No, che siete? Hai un fidanzato in Spagna, diciamo. Hai un fidanzato esatto. In Spagna. Oh, capito, ovviamente perché... lui è italiano. È italiano. Ma io ho capito, avrà una residenza in Italia? Cioè, no, la residenza è in Spagna, perché ovviamente per chi lavora ma i ricongiungimenti, ho capito, ma sarà possibile un ricongiungimento in qualche modo? No, non è possibile. No, questa è la cosa divertente. Ad oggi l'unico motivo per ritornare dall'estero è avere un'esigenza lavorativa comprovata o incredibile situazione di necessità, che chiaramente ci si spera di non avere mai. Mi sembra assurdo. Che bisogna addirittura appellarsi a questo genere di cose per sì, poter Sara, pensare qui il problema, di tornare però, qui il problema non riguarda però le normative, cioè quello che ha detto il governo Conte. Cioè qui stiamo parlando di un'altra cosa, della difficoltà di andare dalla Spagna all'Italia. Cioè in questo momento, adesso non lo so com'è la situazione, qui non c'entra niente Conte oggettivamente. Cioè perché se tu mi dici che magari stai a Roma e il tuo ragazzo è a Firenze, dico cazzo, quello sì. Cioè quello secondo me è una follia, che uno voglia vedere il proprio fidanzato senza rompere il cazzo alle persone, senza infettare nessuno, e non lo può vedere perché si trova in un'altra regione, questo ti posso anche venire incontro, ma sul fatto che stai in Spagna non lo so com'è la situazione tra Spagna e Italia. Però bisogna, scusate, da tenere presente che questa situazione andrà avanti per un bel po' di tempo, allora che facciamo tutti i 5 scopate, milioni di scopate a distanza, che ti devo dire? Cioè, diventa difficile, no? Scopate a distanza, Sara, ci sono una marea di tecniche, utilizzate no, la penso, che, penso che bisogna pensare a tutti quelli che hanno metà vita all'estero e metà in Italia, che fanno i viaggi in continuazione per vedere le proprie compagne, i propri come compagni. State facendo fino adesso? In qualche modo avete niente. Fatto, no? Niente, no, sesso, certo no. Sesso, no. Sesso nulla, sesso scomparso. È vero, come si fa? Scomparso il sesso, capito, ma esiste la masturbazione reciproca, cioè tu con il telefono ti metti lì, lui si mette lì e immaginate qualche cosa, credo che sarà avvenuto questo o nemmeno questo. Guarda, immaginavo che saremmo arrivati a questo livello. No, immaginavo, della ma è una domanda, non beh, è che... ovvio. E allora, accontentati di questo per un paio di mesi, che ti devo dire, adesso la situazione speriamo che possa cambiare, oppure fai un blitz, che ne so. Bisogna fare qualcosa, certo. Fare lui un blitz, si mette in macchina e dice voglio raggiungere la mia fidanzata in Italia, si fa multare e vaffanculo, che ti devo dire, evidentemente non ti vuole abbastanza. Anche noi dobbiamo essere tutelati, non è giusto che il rientro dall'estero ad oggi non è possibile. Giusto, Sara, questo è vero, però se ti ama fa un blitz, se ti ama e ti vuole fa un bel blitz con la macchina, fa tutta la costa mediterranea e piomba da te a Roma. È lunga, si fa multare e noi dice sto raggiungendo la mia fidanzata, non mi rompete i coglioni. Ciao Sara, ciao. C'ho bisogno di sorca io, capito? Di che c'ha bisogno questo? C'ho bisogno di sorca io, capito? Giovanni da Foggia, avanti. Giovanni da Foggia. Signor Giovanni da Foggia. Un'altra telefonata. Tradizione che vive di telefonate pure. E lui fa un'altra telefonata. Vabbè, gente dice cose. Giovanni dalla grazie per aver chiamato. Eccolo qua. Dalla provincia di Foggia è presente. E gli dirà grazie per quello che ha detto. Ecco, grazie per il suo contributo. Il dovere del duce. Parenzo, tu se non ancora vivo è questo, ancora vivo. Ancora vivo. Il duce l'hanno messo testa in giù. Sì, questo l'hanno legato al collo. Chi? A te e tutti i comunisti come te. È la fine che fanno i dittatori. Per terra. È poco più giù del pancreas. È la fine che fanno i dittatori. Ti legherei con un cavetto d'acciaio per vedere se voi siete così forti come siete forti dietro a un microfono, a una radio. Ma cosa abbiamo detto di così strano? Il duce è un criminale e un traditore. Traditore è stato Galeazzo Ciano, comunista come te. Ma cosa c'è che trasmissione è questa? Tu sei un figlio di puttana, sei come figlio delle zoccole, quelle zoccole che vanno per le pugne. Ma come Galeazzo Ciano? Capito? Ma Galeazzo Ciano è stato un comunista come te. Ma scusami, adesso non rifacciamo qui la storia. Giovanni, tu dai. Il 25 luglio è stata una data straordinaria. Il 25 luglio è stata una data straordinaria. Perché lo vado a prendere a Roma Prati. Tu lo stai dando. Tu stai dando un cattivo. Tu stai dando un'immagine dei camionisti pessima. Non tutti i camionisti sono come Giovanni. Io quel figlio di puttana lo vado a prendere a Roma. Tu sei un fascista. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. È una trasmissione incredibile, posso dirti, è una trasmissione e tu incredibile. Sei capace di dire grazie perché lei ha chiamato, cioè mi hanno paragonato a Galeazzo Ciano come fosse un insulto, peraltro mi hanno paragonato, cioè in una trasmissione normale secondo te uno ascoltatore chiama e dice lei è come Galeazzo Ciano, insulta, e l'altro conduttore dice grazie per aver chiamato. Ma grazie cosa? Domenico, ma questa Luca. Trasmissione non è neanche raccontabile. Se io vado all'estero, dici come funziona la trasmissione alla quale tu lavori, è impossibile. Dico guarda, vengo insultato per 2 ore, insulto io a mia volta, telefono gli ascoltatori, ci insultiamo tra ascoltatori e conduttori, non è una trasmissione normale, questo voglio dire. Lo diciamo qui fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. Stasera avremo Giorgia Meloni, Matteo Salvini, stasera, Alessandro Meluzzi. Poi è vero che è stasera, tra l'altro. Chi c'è stasera? Stasera, non lo so, ci saranno le scuse per Feltri, sarà un cinema su Feltri incredibile. Domenico da Luca, non lo so chi c'è, non lo sappiamo chi ancora. C'è no, fammi indovinare. Dimmi Domenico. Luciani, ascoltami. Allora, io sono diventato un fan di droni, no? Dei droni, non per andare a rompere coglione alla gente, c'è una medicina, no? mi metto lì, faccio quell'anno. A medicina dove? All'università? No, una mia vicina. Ah, una mia tua, abbiamo capito, sono a medicina. Cioè una, no, no, una mia vicina, mi metto lì, no, dal bagno della finestra. Lei si mette lì, mi apre tutte le osce. E siccome è sposata, e io di avesse mi fa scusa, io mi diverto. No, no, spiegami, spiegami, col drone io. Aspetta, ricapitoliamo la situazione. Di chi è questo drone? Tuo? Tu hai un drone? È mio il drone. Allora, tu praticamente fai partire il drone e con Bravo. L'accordo o senza accordo di questa vicina? Con l'accordo con la vicina. Con la vicina, il drone dove arriva? Cioè, il marito come fa? Alla finestra. E il marito? Nel bagno. E il marito? E il marito c'è, lavora. E vabbè, c'è bisogno del drone, allora, non ho capito, basta il telefono. E no. Come faccio ad andarci di persona? Ma il telefono c'è, amico mio, c'è il telefono, ma WhatsApp, sì, ma persona, WhatsApp. Ma così è più bello, capito? Cioè il drone inquadra lei, che cosa fa in bagno questa qua? Si masturba insieme a me e via. Ragazzi, ma questa è la, diciamo, le nuove tecnologie nel periodo del Covid. È spettacolare. All'una, alle due, alle tre della notte. Quando voglio. E non ho capito, il marito è zitto, muto, totalmente ignaro di tutto ciò. Delle volte non c'è. Io sono single. E quello sta zitto. Parenzo sta zitto, non commenta. Sto zitto perché sono allibito da quello che ho sentito. Della topa, non riesco a commentare, mi manca proprio la saliva. Io sono allibito per questa telefonata e per le tante telefonate che ho sentito in questi 10 anni, ma sono allibito dal fatto che lei è una persona che ci mette la voce e la faccia ed è facilmente riconosciuto per le stupidaggini che ha detto. Io sono umiliato per lei, io mi sento umiliato per lei. Ma perché lei è catastrofico, lei è una persona catastrofica. Ma no, è catastrofico. Ma lei è catastrofico, lei proprio a telefonare su questi temi, è catastrofico. Fermi tutti. La zanzara. I'm living on shattered faith. Kinda likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocate out. Matteo. Interviste top, avremo Giorgia Meloni e poi avremo Matteo Salvini, tutte e due in questo studio, prima e poi l'altro. E poi avremo un sacco di ospiti, avremo chi? Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri. Poi? Ho capito, però è roba vecchia questa. Andiamo per strada e ci fanno le contravvenzioni, sì. Povere vecchiette, 500 euro. Poi? Noi abbiamo già dato, noi del Movimento Gilet Arancioni, non abbiamo perso tempo. Abbiamo dato incarico ai nostri legali di tutelare coloro che hanno avuto le contravvenzioni. Non le pagate le contravvenzioni! Rivolgetevi a noi, non ve le faremo pagare quelle contravvenzioni. State tranquilli. No, scusa, però Parezzo, se uno che non vuole pagare una contravvenzione, una multa, si rivolge al generale Pappalardo in Tunisia, peraltro, è finita, raddoppio della multa, quasi certo. Gli danno pure l'assassino del mostro di Firenze, gli danno tutti quei delitti insoluti che ci sono in Italia, il giallo di Via Poma, gli viene attribuito qualunque tipo di delitto, dai. Rientro in Italia, io rientrerò in Italia. State tranquilli che io rientrerò in Italia. Rientrerò ad ogni costo. È una minaccia, c'è già il Covid. Perché quello che si deve fare, si deve fare. Ma però scusa, non è come il rientro, non so, di Garibaldi. No, ma poi abbiamo già tanti problemi qui, il Covid, la gente che sta perdendo il lavoro, la povertà. Dai, rimani lì che non c'è problema, grazie. Facciamo da soli, grazie. State tranquilli. Il 30 maggio e il 2 giugno noi facciamo la manifestazione. Ma dove? La gente è tutta preoccupata, ma non possiamo uscire. Con Pappalardo Antonio state tranquilli. No. Perché Pappalardo Antonio non mi butta allo sbaraglio. Il 30 maggio in tutti i capoluoghi di regione, tutti fuori, tutti in piazza, ci dobbiamo contare e ci debbono contare. Il popolo italiano è in piazza. Dobbiamo essere milioni. Questo comunque è pazzo. Questo è stato ai vertici delle forze armate, ti rendi conto? Cioè questo signore qua è stato ai vertici delle forze armate. Che può essere... Io le forze armate le rispetto tutte, però, carabinieri, polizia, guardia di finanza. È grande preoccupazione, tu potresti però dire. Il fatto è un segnale. Diciamo, sono rassicurato che oggi non ci sia più. Ecco, che oggi al posto di questo signore ci siano altri signori. Il 2 giugno noi ci presenteremo lì. Dove? In piazza... davanti alla Camera dei Deputati. Ma è festa, i deputati non ci sono. E noi non ce ne andiamo, stiamo lì e vi aspettiamo che vengano il giorno dopo. Ma che ci vai a fare? Ma cominceremo ad approvare i provvedimenti. Impeachment. Stato di accusa nei confronti di Mattarella, Conte e tutti i governanti che sono abusivi e se ne debbono andare. Ma dove li approva? Lo stato di accusa immediatamente alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti costituzionale, vi chiedo scusa. Ah, ecco appunto. Ma dove li approva? In piazza? Che cosa fa? Con chi? Il 2 giugno? Con chi? Ma con dai, chi? Ma ancora lo segui? Ho preso il coronavirus, state a casa, prendi un po' di antibiotico, ti prendi qualche antinfiammatorio, ti bevi qualche aranciata e te ne stai tranquillamente a casa, no? Te ne vai in ospedale, dove ogni anno in Italia, voi non lo sapete, ma ve lo dico io, ogni anno in Italia muoiono 150.000 persone per strane malattie che si contraggono in ospedale. Circolano certi batteri, circolano certi virus negli ospedali. Quei maledetti cialtroni della radio televisione italiana di Mediaset, nessuno va a verificare quanti morti, quanti suicidi ci sono stati per questi arresti domiciliari. Abbiamo dato incarico A chi? Ai nostri legali di tutelare coloro che hanno avuto le contravvenzioni. Non le pagate le contravvenzioni ancora. Ma la gente vuole mandare la gente al gabbio, questo qua, al gabbio. Basta, ragazzi. Gianni da Milano, vai. Gianni da Milano, ciao grandissimi. Dimmi Gianni, dimmi. Dunque, Beppe è un grande e quindi una cosa da non trascurare affatto sono i tamponi alle prostitute. Ma certo, ma ragazzi, ma è fondamentale, ma tanto scusa. Mi spiace se Davide resta allibito, è molto simpatico per la telefonata di prima, ma d'altra parte io ho tanti colleghi sposati no, che ci vanno, quindi. Dunque bisogna mettere in sicurezza queste robe qui, tanto comunque alla fine la gente ci andrà, no? Dal 4 in un modo o nell'altro, anche se non è consentito, la gente ci andrà. Tu ci vai, per esempio, ogni tanto, no? Ma no, e poi sei pieno di puttane, come diceva quella là. Quando avete intervistato Ulisse, ecco, mi è venuto in mente, lui adesso è in pensione, quello dell'oceano, sì. Che l'unico era stato Salvini che aveva detto tiriamo via la merlina e riapriamo, poi vabbè, per non se ne è fatto niente. Tu a quante volte andavi a puttano? Vai ancora, immagino, no? Ma io ci ho lasciato una fortuna. Poi altra cosa. Ma scusami un attimo, ma oggi come fai tu? No, siccome non voglio portare via tanto tempo. No, ma come fai oggi? Oggi come vuoi che faccia, da solo, no? Ho capito, no, magari trovi qualche prostituta vicino casa, che ti devo dire? Pure. Gianni, no, gli suggerisce pure cosa fare. Ma io sono qua in ginocchio, che se non ci siete voi dalle 18:30 in poi non so proprio dove sbattere la testa, che metterà un po' di morale. Comunque volevo dire, ma perché dire non che legge un libro anziché ascoltare la zanzara? Questa è l'unica tradizione culturale. Ma davvero, ma lo dico, ma sai, ma no, ma guardi, ci sono dei libri, adesso facciamo un'altra cosa. Io in questi giorni sto leggendo il libro dello storico Gentile. Sei l'unico che dice di non ascoltare questa trasmissione, ma no, ti pare normale a te? Io se ma potessi, uno più simpatico. Ma quello che volevo dire, Gentile, si legga lo storico Gentile sul fascismo, quelli che vendono in allegato con il Corriere della Sera, Gianni, ti saluto. 8,90 €. Anche a proposito di questo, non vedo perché negare, adesso al di là di tutto, che certe cose buone che ha fatto, che ha iniziato lui, sono ancora adesso. Ma che vuol dire? Dai, ciao Gianni, ti devo lasciare. Ciao. Allora, ragazzi, io chiamerei Nicola Franzoni, che è il titolare di un bar a Marina di Carrara, che è molto incazzato. Nei giorni scorsi ha fatto dei video molto criccati, uno addirittura ripostato dalla Lega. Sai che la Lega fa sempre così, no? Prende dei video di cittadini, ogni tanto li rimettono online. Li riposta. Signor Nicola Franzoni, che è praticamente in questo momento una specie di simbolo per i baristi. Per i baristi, che ha dei bar, che ha dei locali. Sì, pronto? Sì, con chi parlo? Nicola? Sì, chi è? Sono Cruciani, Radio 24. Ah, ciao, come stai Cruciani? Tutto bene? Beh, non c'è male. Ho sentito che sei incazzato, giorno dopo giorno sei sempre più incazzato. Allora, è il cammino della disperazione degli italiani che sono coscienti del fatto che non ci sarà la ripresa. Noi abbiamo organizzato una manifestazione a Roma per il 1° di maggio. Sono tutti ristoratori, baristi, proprietari di palestre, camerieri. È il popolo che non ci sta. Questo è il popolo che fa la rivoluzione. E nessuno capisce un cazzo delle vostre esigenze. Questo è il punto fondamentale. Le nostre esigenze te le spiego. Allora ti spiego la mia esigenza. Io ho 30 persone, 30, sì, che non prendono un cazzo di un euro da 3 mesi. Sì. Queste sono le esigenze. Io ho 3 locali, ho sacrificato una vita per costruire questo. Giusto. Ho sacrificato la mia vita dentro i miei locali. E pago 20.000 euro al mese tra affitti e utenze. E la luce, solo la bolletta, a locale chiuso, solo per i costi di trasporto e per l'IVA, mi costa 1.500 euro. Vado sotto in banca di 20.000 euro al mese per tenere locali chiusi. Il nostro Presidente del Consiglio ha una dichiarazione di redditi di 1.200.000 euro all'anno, incassa 100.000 euro al mese mentre noi moriamo di fame. Siccome non ha la percezione delle nostre difficoltà, andiamo a Roma e lo cacciamo noi, hai capito? Oh, questo è il punto, ci siamo troppo incazzati. Allora, Nicola, quando mia dipendente mi chiama e c'ha 3 bambini e dopo 2 mesi non riceve un euro, e questo essere si presenta ieri sera a Brescia dicendo che lui ha previsto misure per le aziende in difficoltà a fondo perduto. Ma chi sei? Ha solo garanzie, non ci sono soldi, sono balle, il paese sta per saltare. Noi andiamo a Roma, occupiamo Roma fino a che lui non sa. Ho capito, però tu hai detto vi mettiamo al muro, vi spazzeremo via, amico mio. No, ti dico cosa facciamo. Tende da campo, sacchi a pelo, camper. Sì. Occupiamo Roma, tutta Roma, fino a che lui non se ne va. Scusami un attimo, ma tu hai detto anche che vorresti che queste cose qui, utenze, affitte, eccetera, siano pagate dallo Stato, giusto? Ma scusa, in Germania lo fanno, voi siete giornalisti. No, ma tu hai ragione sul fatto che devono dare i soldi a fondo perduto, perduto. Ascolta, il tempo delle prese per il culo è finito, ok? Io ho fatto un video che fortunatamente ha pubblicato la Lega, in cui entro in tutti e 3 i miei locali, ok? E dimostro che è impossibile lavorare in un locale di 200 metri quadrati, sì, dove io facevo un menù a 10 euro popolare perché mi arrivano i pensionati sociali. Cioè, o fai un tot di coperti oppure non riesci a tenere, non c'è dubbio. Non è possibile, perché con le sue misure io riduco la potenzialità a un terzo. E poi ci dice di mantenere il livello occupazionale. Ma parliamo di ignoranti. Ma questi ma sono i 25.000 euro li ha presi o no? Ma che li ha presi o no? Non i 25 preso niente, euro? Non ho preso niente. Ma perché non li ha presi? La pratica l'ha fatta o no? L'ho inoltrata la pratica, ma la direttrice mi ha detto che loro hanno il loro staff interno che revisiona tutto. Dai Davide, vabbè, è una quello buffonata, ma le arriveranno, quelle devono arrivare. Ma per perché forza deve prendere un prestito? Ascolta. Non lo vuole il prestito questo qua, andare sempre un'altra volta con i soldi in prestito, non lo vuole. Scusate, vorrei un secondo. Molti di questi saranno soldi a fondo Parenzo perduto, ma non Cruciani potranno farlo per tutti. Dimmi. Parenzo e Cruciani, ma mi sembra normale che in tutti i paesi d'Europa danno i soldi a fondo perduto? Io mi trovo a fare un debito per pagare a locali chiusi, non i debiti che mi fanno fare loro. E io sono debiti che ti fanno fare loro, quelli sono soldi che ti prestano, ti danno a costo zero. Ha ragione. Ma questo si capisce, ha ragione di essere arrabbiato, però un momento, dice, non è che Parenzo, tutti... scusate, lasciate stare me che sono un uomo che non ha famiglia né figli. Ma vi rendete conto quale frustrazione può essere sentire i propri dipendenti che ti chiamano che gli mancano i 50 euro? Ma certo. Devono andare a casa! Vanno a casa! Li mandiamo a casa noi! Se non c'è riuscita l'opposizione, vanno a casa! Ma come? Noi occupiamo Roma! Ma come? Vanno è una... a casa! Ma è un atto di forza questo, non si può fare... Ma me ne frega, vanno a casa! Ci vuole un governo di unità nazionale! Con un voto parlamentare. Sì, ma Nicola, ma non è che uno va in piazza a Roma e si mette lì e fa il governo, cioè non è che funziona. Ascolta, questi sono un manipolo di incapaci, non hanno la percezione della realtà. E non ha argomenti, Davide. E Davide non ha argomenti. E Parenzo non ha argomenti nei confronti di questo. Ho argomenti, ma mi attaccate in due sulla cosa che non ho fatto. Ha ragione lui. Lui ha ragione. Quei soldi devono arrivare. Questo è il punto vero. Dimmi. In questa crisi, il governo non sta prevedendo, come negli altri paesi, delle misure. E scusatemi 30 secondi. Io ho un amico a Glasgow, ok, in Scozia, dove lui riceve, dal momento che è entrato il coronavirus, lo stipendio a casa. Irlanda, l'amico del mio pizzaiolo, vi giro i post, riceve dal primo giorno £800 sul conto corrente. L'Italia, siamo dei pagliacci, questo è un governo dei pagliacci, ci hanno promesso 1000 cose, non hanno fatto niente. qui c'è una responsabilità collettiva, cioè quella di cambiare questo paese, le regole del gioco. Ciao Nicola, ti abbraccio, ciao, ciao, ciao Nicola, ciao, ciao. La Zanzara. Abbiamo dato incarico ai nostri legali di tutelare coloro che hanno avuto le contravvenzioni. Non le pagate le contravvenzioni! Nessuno. Sorridete, raccontatevi le barzellette, perché io quanto prima tornerò, verrò in Italia e vi libererò, vi restituirò la libertà che meritate, ma soprattutto il vostro denaro, io ve lo darò. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Tux, oggi vado in missione. Loft Girl, 100 euro, appena arrivata, non so come, si va a leccare la figa. Cruciani, da quando è stato emanato il nuovo decreto Conte, c'è un dubbio che mi assale. Io mi frequento da 6-7 mesi con due prostitute, con le quali faccio sesso regolarmente, 2-3 volte alla settimana, dipende dagli impegni di lavoro. Ma queste due le posso giudicare a tutti gli effetti due congiunte? Siamo al toppe, al toppe. È normale un poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Ma credo che abbiamo uno spatalino dannata. Uno spatalino dannata, se non sbaglio. Uno spatalino dannata. Comunque, ragazzi, i tamponi alle prostitute saranno un mio grande cavallo di battaglia nei prossimi giorni. Tamponi. Prima di arrivare a questo, però, scusami, ma prima ci sono tutti i lavoratori. Ma che c'entra prima? Perché non sono lavoratrici? Ma perché vuoi negare lo status di lavoratrici a 80.000, 90.000 persone? Che cosa sto sfregiando? Tutte le persone che stanno in lockdown, chiuse a casa, che non possono riaprire il loro ristorante, il loro bar, il loro tamponi piccola attività di commercio. Tamponi e test sierologici alle prostitute di tutta Italia. Assolutamente. C'è un paese fermo e questo pensa alle prostitute, mamma mia, ma è una cosa scandalosa proprio. Ma cosa? Ci deve essere una rivolta sotto la radio per quello che dici, una rivolta appena finisce il lockdown. Ma non ho capito. Ci deve essere una rivolta per quello non che dici. Guarda che ci sono attività produttive che aspettano di riaprire, questo pensa alle prostitute, ma è una ma vergogna. Perché quella non è un'attività produttiva, non è un comparto fondamentale dell'economia italiana. Non è lecita, quella là. Non è un'attività ma chi se ne produttiva frega, lecita, a parte che non è vero, come sai, perché la prostituzione non è illecita. Non è illecita la prostituzione. È un'attività produttiva lecita e non è porta ricchezza al paese, peraltro. Amico mio, non versano tasse perché purtroppo non gliela lasciamo versare, altrimenti le verserebbero. È un'attività Insomma, importante. Ci sono imprese davvero a rischio, pazzesco, e non puoi guarda. Pensare ogni giorno alla prostituzione. È una vergogna, è una cosa, guarda. Ma non c'è neanche bisogno di spiegarlo perché. Ma è. Pasquale da Roma, dai, Pasquale. Ecco, buonasera a tutti. Dimmi. No, volevo dire una cosa. Siccome è un amico che fa il carabiniere, so questa cosa, magari potrebbe interessare a te come a tanti ascoltatori. E mi ha raccontato di questo ragazzo che in pratica è andato a denunciare il fatto che ha conosciuto una ragazza su Facebook. Ma adesso, in questo periodo? Sì, la settimana scorsa, non lo so. Periodo, diciamo, di lockdown, di Covid. C'hai la radio accesa, Pasquale, c'è la radio alta dietro di te, non so che. O David c'ha qualcosa che non funziona. Dai, Pasquale. No, tutto chiuso, ecco. Cioè, ragazzi. Dimmi, Pasquale, dimmi. E quindi niente, lui è spaventatissimo, dice che è andato lì denunciando il fatto, ha conosciuto questa qui, hanno si sono visti poi in videochiamata su Messenger, hanno vabbè, fatto allora, cosa normale, masturbazione allora, reciproca, però, sì, certo, allora in videochiamata, questa giorno dopo l'ha contattato dicendo che vuole 3 sacchi. E perché cosa? Non ho capito. Perché mette il video dappertutto, parenti, amici, ha detto. E qui e addirittura dice gli ha mandato uno screenshot di una parte del video messa in un sito con delle scritte cinesi. Dice comunque il prossimo passo metteremo nome e cognome. parenti, amici e tutti. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma è una puttanata, nessuno può essere ricattato per una cosa di questo tipo, non diciamo stronzate. Lui dice che è arrivato proprio terrorizzato, cioè nel senso, ma ho capito, sarà una deficiente, ma sarà una deficiente. Elisa da Milano, dai, Elisa, dimmi. Buonasera. Dimmi, Elisa. Io volevo rivolgermi al signor Parenzo, volevo dirgli con molta umiltà, per non essere insultata subito, che non può dare delle notizie false, e mi riferisco al test sierologico che lei... che ho fatto io oggi, sì, ma Davide, c'è qualcosa di acceso però, scusami Davide, c'è qualcosa di acceso, perché c'è un ritorno, dai, c'è un ritorno del cazzo, dimmi, dai, c'è un ritorno del cazzo, dai, forza, Elisa, dimmi. Dicevo, quello che lei ha fatto non è un... non so se ha avuto o non ha avuto una corsia preferenziale. Ma quale corsia preferenziale? No, non ha capito, mi scusi, mi lasci parlare un attimo. Lei non ha avuto detto, perché l'ho fatto anch'io, dal mio semplicissimo dentista, basta prenotarlo, pagare 20, 30, ma 35 certo, euro. Assolutamente. Ecco, questo volevo cosa dire. Che lui signor, non ha fatto. Il signor, cosa scusi, che lui non ha fatto. Lui non l'ha né pagato, ma l'ha fatto qualcuno per me. È arrivata la Croce Rossina. È arrivata la Croce Rossina. Eccola qua, la Croce Rossina è arrivata. Il soccorso rosso, il soccorso Crux. Signor Cruciani, volevo mi scusi, volevo soltanto dire che se una persona parla alla radio, in televisione, in qualsiasi posto, deve dare delle notizie, non può fare la figura del disinformato assoluto. Perché quello che ha fatto lei, l'ho fatto io, l'hanno fatto i miei parenti, vi dicevo, certo, è una cosa ma normalissima. Devi andare dal dentista, normalissima. A parte che ha un'attendibilità ancora piuttosto scarsa, dovrebbe essere fatto dallo Stato, dovrebbe essere fatto. Certo. Questo certo. Questo signore, sei molto ignorante. Ma molto questo paziente. signore lo sa, vive nel suo terrazzo. Ma pensa a questa Croce Rossina, poveretta, questa poveretta Croce Rossina di Crugiani. Pensa a te. Aspetti un attimo. Deve avere una brutta vita questo signore. Una brutta vita. Pensa alla poveretta che deve telefonare e fare la Croce Rossina di Crugiani. Sì, io vedo molto negativo. Anch'io. E direi che è giunto il momento di Vittorione Sgarbi, ragazzi, alla conclusione di questa drammatica giornata. Direi di sì, a questo punto chiamiamo Vittorione, perché ieri sera l'ho visto molto caldo, sul tema della libertà, contro i virologi, contro la dittatura dei virologi e contro queste nuove norme assurde. Soprattutto non sono d'accordo sulla questione delle messe, sulla libertà di culto, ma che cazzo ci frega. Adesso l'Italia si è riscoperta improvvisamente cattolica, si è riscoperta improvvisamente attaccata al rito della messa, di cui non frega una mazza a nessuno, incredibile. Sono in viva voce, eh? Come andiamo, uomo maestro? Benissimo, benissimo. Ma grande consenso sul culto dei morti, perché le contraddizioni di Conte sono straordinarie. Si è capito che è soggiogato dai comitati tecnici scientifici, ma come mai improvvisamente puoi andare a passeggiare, puoi andare in un parco? Prima cosa, qual è la differenza? Cos'è cambiato? Non è che si è attutito in particolare nei parchi? Quindi si è messo ordine a quello che era confuso. Le messe non si possono fare, però la messa per il funerale sì. Com'è possibile? Per 15 persone puoi farla? E finalmente la CEI, la Conferenza Episcopale, si è ribellata dopo che hanno sconfessato. Sì, però posso dirti un po' chi se ne frega questa cosa delle messe. Ma non è che deve fregare a te o a me, ma è un potere che viene coartato da un altro potere senza essere consultato. Sì, d'accordo, però ma io sono d'accordo con te su questa in generale sul fatto delle libertà, quello d'accordo, però non è che adesso ci possiamo svegliare tutti quanti preoccupati per le messe quando poi a messa non ci va nessuno. Cioè adesso tutti siamo preoccupati per le messe, cioè le messe la mia non è una preoccupazione, la mia è una garanzia che quello che la Chiesa decide di fare non sia stabilito da Conte, altrimenti è inutile che ci siano concordati, cioè deve essere concordato per l'appunto. Però la salute pubblica non la può decidere la CEI, Vittorio, il tema della salute pubblica, quelle decidono... La salute pubblica è stare all'aperto, è l'unica salute possibile. Appunto, non in Chiesa. Non può fare il sanitario, stare all'aperto per un bambino, per un uomo, per un vecchio, è più sano che stare al chiuso, lo sanno tutti questi idioti che hanno nessuno mai posso rinforzare tutto, ma mai che stare all'aperto o andare in bicicletta o stare in un bosco, l'hanno detto 9 magistrati, lo ha detto chiunque conosca, l'ha detto Garattini, l'ha detto chiunque, che stare all'aperto è meglio per chi chiunque. Quindi hanno letto una balla, hanno costretto la gente attraverso una cosa non di prepotenza, ma di ignoranza. Sono ignoranti, ma come capre. Oggi ti dicono, caro Vittorio, no. Anzitutto Galli dice che la messa è pericolosa come un concerto, come una partita di calcio. Il virologo Galli ti dice. Ma Galli è il virologo con cui lavora la Gismondo, che ha detto sempre il contrario. Si mettono d'accordo. Il problema è quante persone sono. Allora, anche andare in Parlamento, come a teatro, dove siamo in 250 o in 300, è pericoloso. Eppure non lo interdicono. Hanno rotto i coglioni. Dicono solo cose senza senso perché non hanno idee. Sono ignoranti, non scienziati. E abbiamo un balordo che ha bindolato da loro, fa quello che loro dicono, come una marionetta guidato da loro. No, tra l'altro oggi dicono un'altra cosa, ti terrorizzano su un'altra cosa, tornerà il contagio, se si riapre tutto torna il contagio. Oggi addirittura dicono, e non so quale virologo dice, non possiamo riaprire troppo, perché se riapriamo la curva salirà di nuovo. Cioè oggi c'è questa litania. Ma non lo sanno, appunto, parlano col condizionale o col futuro, non lo sanno, danno prova di non saperlo. Quindi le persone che sono sagge capiranno che se corrono dei rischi è bene che evitino, cioè non è che dai degli ordini insensati, come dire non puoi passeggiare in spiaggia, ma vaffanculo, ma non puoi andare in un bosco, no, vai al diavolo. Ma certo, se uno è da solo certo che può passeggiare in spiaggia, ma se tutti vanno in spiaggia a passeggiare diventa un casino. Ho col drone e l'elicottero era da solo. Perché l'hanno fatto? Però scusami, c'è un'altra cosa folle, questa cosa qua dei congiunti e dei cosi, che è un'altra cosa ridicola. Uno può avere un amico da andare a vedere con tutte le precauzioni, sì, e non è considerato affetto stabile. Ma che cazzo vuol dire questa cosa qua? Io ho un amico in Umbria, non ci posso andare, che è il mio principale affetto stabile. Non ci posso andare? Come cazzo è possibile? Perché non ci posso andare? Ma infatti tu hai capito che adesso stanno cercando di interpretare congiunti in modo diverso. Io per esempio ho persone che mi sono molto care più di quanto non mi siano dei parenti, cioè il parente fino all'ottavo grado va bene, sì, un amico stretto o una fidanzata non va bene, due omosessuali non sposati che hanno un rapporto di affetto non si possono vedere, ma chi l'ha detto? Quindi non voglio neanche. Poi tra l'altro c'è gente, scusami, oggi mi scrivono adesso un altro argomento, ma è pure importante, mi scrivono, l'ho già detto prima, diverse prostitute, e mi dicono, ma scusate, noi siamo 70-80 mila, ma siamo 70-80 mila, no? Perché siamo 70-80 mila e le persone vengono da noi, a parte che non siamo considerate, le persone vengono da noi e siamo per alcuni degli affetti stabili, ma cazzo, facciamo i test pure a queste persone qua, no? In Giappone lo fanno. Ma se non le fanno i manager i test, devono farle alle prostitute, ma che dici? Non lo puoi fare al cliente. È vero che la distanza di un metro è garantita soprattutto da dietro, come abbiamo già detto, perché c'è la lunghezza della schiena. Sì, quindi però le prostitute hanno meno futuro che non quelli che invece agiscono dalla parte posteriore. Ma tu soprattutto sei incazzato con i virologi a te ti fanno incazzare come delle bestie. Ci sarà, dice quel balordo di Ricciardi, in autunno certamente una ripresa, ma perché devo dire cose che non so? Sì, cioè, che poi tra l'altro è una cosa di terrore, cioè uno dice in autunno sicuramente ci sarà la ripresa, ma che cazzo dici? Ma se non saputo prevedere prima, adesso mi dici quello che succede a settembre-ottobre. Voglio una scienza che mi assicuri, quando vai da un medico e tu temi di avere un male grave, se il medico è intelligente comincia ad assicurarti. È rassicurare che è bello, non intimidire. Ma che senso ha in un posto in Umbria dove ci sono zero contagi ancora avere le stesse regole che ci sono da altre parti? No, ma quella è la follia, dai. E quello è il problema vero, cioè un vero statista prende atto di tutto quello che gli dicono i comitati scientifici e li rispetta. Poi fa delle valutazioni politiche che sono diverse dalla coincidenza totale con le idee o con le posizioni contraddittorie. E quindi prende per esempio questa divisione, Basilicata, Umbria, tutto uguale, poi nei fatti e non è così. È un'altra cosa che dimostra che non c'è politica. Ciao Vittorio, avanti. Miserabili, tutto. Ciao. Miserabili. Sempre. Ciao, viva la gnocca sempre. Ciao. Alberto da Reggio Emilia, vai Alberto. Tu richiamatelo, Diego da Agrigento, vai Diego. Sì, ciao Cruciani. Dimmi Diego, ascolta. Dimmi. Dunque, io volevo riallacciarmi al discorso anche che ha fatto pure Sgarbi. Io dico, io sono un ristoratore, va bene? Dimmi. Oh, se io sono con mia moglie, mi corico con mia moglie, con la mia famiglia, perché una famiglia non può venire nel ristorante se deve mettere a un metro e mezzo di distanza? Qual è la logica? Beh, infatti non si può riaprire così, ancora non hai capito, non si può riaprire per niente così. Appunto, ma i ristoranti con la, col distanziamento è una cosa ridicola, ridicola. Appunto, ridicola. No, voglio dire, è un dramma, ma è ridicolo, non ha senso, non ha... Scusami Cruciani, se io scopo con mia moglie e dormo nello stesso letto, perché al ristorante devo stare a un metro e mezzo di distanza? No, con tua moglie, ma no, ma capito, con tua moglie non devi stare a un metro dagli altri, rincoglionito pure tu. Sì, cioè... ma scusami, no, allora, allora non è così la legge, perché il decreto no, dice... Diego, scusa, tu vai al ristorante con la famiglia, in cui, cioè se andrai, non lo so, dal primo giugno al ristorante con la tua famiglia, non è che dovete stare voi a distanza, distanza coi tavoli, rincoglionito pure tu. Io starei a distanza di questo qua, io non starei mai al tavolo con questo qui, ad esempio. Il decreto parla chiaro. Ma cosa parla chiaro? Ma quale decreto? Sua moglie parla chiaro, che con lei non esce perché si vergogna. Capisci? Ma quale sua moglie, la realtà è che sua moglie si vergogna e non uscirà mai con lei. Anch'io mi vergognerei a uscire con uno come lei. Altro che decreto. Ma che cazzo dici? Scusami, scusami. La verità, caro amico, sa qual è? Sei un ristoratore, ma caro amico, la verità è giusto che si mette col plexiglass. No, ma questo, l'abbiamo, ma questo non c'entra niente. Ma se una famiglia va insieme al ristorante, questi possono stare tra di loro senza il distanziamento. Ma che sei rincoglionito? No, non è così. Ma sei rincoglionito? Ma non hai capito? Allora fai pure il ristoratore. Ma certo, la stessa nucleo familiare che abita nello stesso posto può stare nello stesso tavolo senza rispettare che sono tutte monadi. Ma non è così. Non è così. Non è così, il decreto dice altro. Ma, capisci? L'assurdità Se lei fa da mangiare, se lei fa da mangiare come capisce le cose, siamo rovinati. Se lei cucina come capisce le cose, siamo rovinati. Ma che dici? Ma scusami, che dici? I plexiglass. Ma che cazzo dici? Di Messina pure questo. No, di Agrigento, di Agrigento. Però i divisori in plexiglass. Agrigento peraltro, grande città di Natalia, concepiti per, sono concepiti per i cosi, per i nuclei familiari, cioè per le persone che stanno allo stesso tavolo, per distanziare i tavoli, non per distanziare le singole persone, Diego. No, no, è per distanziare anche le singole persone. Ma scusa, ma, non è, ma che dici? Io dico, Parenzo, aiutami tu, Davide, aiutami tu con questo ristoratore. Ma non capisce un cazzo, Davide. Io comunque tanti anni fa, voglio dirti questo per chiudere, tantissimi anni fa, credo 15-16 anni fa, venni ad Agrigento, meravigliosa Agrigento, bellissima città, che è nata di Natalia Pirandello, no? Vabbè, lo allora sai, è nata di Natalia Pirandello. È vicino alla casa di Pirandello. Vabbè, allora... Ecco, e io dormì all'hotel Pirandello, mi ricordo ancora, che era sul luogo, esiste ancora? Pirandello comunque si trova in un'altra zona. Ma perché? Ma che ce ne frega a noi adesso? No, mi è venuto in mente ma così, che ce ma ne frega ancora Alberto da Reggio Emilia? Perché ci dormi lì 15-20 anni ma fa? Ma chi se ne frega, un ricordo Alberto. Splendido di Agrigento. Vabbè, scusate. Dimmi Alberto, dì la cosa pazzesca, guarda. Fatti promotore per andare in Svizzera al Maxim di Chiasso, perché qua non ce la facciamo più. Amico mio, tu lo so che hai bisogno di svuotarti a Maxime di Chiasso, ma il problema fondamentale è un altro, è che Maxime di Chiasso purtroppo sarà uno degli ultimi posti a riaprire, perché sai ma non c'entra niente Conte con la Svizzera, il problema è che i posti dove c'è promiscuità, diciamo, cioè sono i corpi che si avvicinano, che si amano, che si adorano, anche paganti per carità, dove ci sono i corpi a contatto, purtroppo amico mio è un casino. Ma con la mascherina, ci vuole con la mascherina. Ho capito, non puoi andare con la mascherina, puttane, dai, su a Maxime, ragazzi, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Un'avvertenza. Ho un carattere ferroso, ho un carattere dinamico, ho un carattere di bende.